Dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. What's this? Siete tutti lì belli rintanati lì a casa senza... con la copertina. Ma c'è il sole. Ma dove c'è a il sole? A Siracusa ci sarà il sole, non è possibile che... Ma figurati che... se adesso c'è il sole da qualche parte. Secondo me sì, guarda. Oggi brutto. Sul Cilento c'è il sole, c'è sempre il sole. A noi qua a Milano va bene, piove però tanto. Adesso possiamo, guarda, secondo me non raggiungiamo il Cilento? No, non riusciamo a coprire una mano con i 5 punti dove c'è il sole d'Italia in questo momento. Allora, così, tanto per scaldarvi un po', no? Voi che siete già caldi con il sole, no? Andate direttamente sul 349-238-6666, mandateci un sms qui a Caporizzuto, c'è il sole. Caporizzuto sempre sole. Sempre sole. Cioè, è la guarda, morte sua. A Caporizzuto ci sono due cose. Sì. Il sole e il campo nudista. Ecco, vabbè, adesso. Beh, almeno qualche certezza qua e là c'è. Il campo nudista? No, il campo nudista, qualche certezza. Là c'è il sole, c'è anche il campo nudista, ma c'è anche Dai e Vai la domenica pomeriggio. Sempre. Tanto per mettiamo subito i tuoi puntini su esatto. Lei. Noi ci saremo anche domenica prossima. Anche perché quest'anno, non te l'hanno detto, ma Pasqua cade di domenica quest'anno. È battuta questa? No, non è, no, è così, è considerazione. Questa è battuta e su questa metto calo un velo pietoso. And your shoes get so hot, wish your tired feet were fire. E vabbè, allora non ci lasciano affrontare il velo pietoso. Sì, ce lo lasciano affrontare perché sì. In realtà è stato annullato il gol del Verona, che sarebbe il 4-2. Esatto. Nel contrario. Ci ha fatto sperare un po' il crotone qua e là, no? Di una domenica così, di quelle un po'. Esatto, c'è stato un crotone garibaldino in quel di Verona, vinceva 1-0, poi vinceva 2-1, adesso sta perdendo 3-2. Siamo al 30° del secondo tempo, stava per segnare il 4-2, anzi l'ha segnato Cacia su un passaggio di Alfredson, però era in fuorigioco. C'è questa regola del fuorigioco nel calcio che appena stata introdotta, il Verona non la conosce ancora bene, quindi fuori gioco del Verona, niente gol a Cacia, sì, no, 3-2. La cosa un po' strana è che Cacia ha tentato anche persino di protestare, cioè era un tre metri avanti, tranquillo, sì. Proprio 3 metri puliti. Però visto che ci sei e che hai la possibilità di dargli questi risultati, diamoli questi risultati anche di Serie B. Dici no, ho detto, perché subito a casa dico, no. Ma no, ma anche quando non c'è la Serie A, adesso parliamo di calcio, sì, c'è la Serie B, e quindi non è che possiamo far finta di adesso niente, non è che facciamo razzismo calcistico. No. Sai che Balotelli ha parlato di razzismo. Guarda, Balotelli ha parlato di razzismo. Contro il razzismo. No, questa è battuta. No, è battuta. Questa è imitazione falsa, però è venuta male. Insomma, esatto. Non è colpa mia. Brescia Cittadella 1-1. Il Livorno sta vincendo con Lanciano 2-0. Il Novara batte l'Ascoli di Zaza 1-0. Ricordatevi di Zaza. Regina Juve Stabia 2-1. Sassuolo Ternana 0-0. Il Verona l'abbiamo detto. Dove sta, scusa, Zaza? Zaza nell'Ascoli. Questa è battuta comunque. Ah beh sì, è vero, questa Zaza è battuta. Vabbè, cioè, comunque lento, nell'Ascoli. Sei lento. Lo so. Verona-Crotone 3-2, l'abbiamo appena detto, e Vicenza-Varese 1-0. Alle 12.30 la Pro Vercelli ha espugnato l'ostico campo del nostro Gigi Cagni di Spezia, vincendo 3-1 con i gol di Scavone, Cristiano e Iemmello. Ne conosco uno di sti tre. Sì, è ben chiaro, Cagni non è che sta perdendo perché prima ha fatto una telefonata a noi prima di essere stato scelto, poi no. Anche perché, ricordiamo, ricordiamo che Lenin Novellino ha fatto la telefonata a Dajevai, è diventato l'allenatore del Modena, è andato a Padova a espugnare il campo di Padova, ha vinto ieri Modena 1 Padova 0. Sì, ti sento entusiasta di fronte nonostante a un tempo così uggioso, questo mi dà un po' veramente un po' fastidio, devo confessartelo. Vabbè. Comunque allora dicevamo, ancora altri risultati? Basta, finiti tutti. Parliamo prima della vaccata di Alonso o prima del risultato della Formula 1? Intanto a che ora era? Cioè io proprio non... Era alle 9 di questa mattina. Beh, le 9, cioè un orario dignitosissimo. Sì, dignitosissimo, non si è fatto la notte. Si tratta del Gran Premio di Sepang in Malaysia. Ha vinto Sebastian Vettel davanti a Mark Webber. Ecco. Vabbè, quindi tu visto? Le due Red Bull, sì, c'è stata polemica perché loro avevano fatto un accordo, no? Sai, Vettel e Webber sono tutte e due della sì. Red Bull, si sono messi d'accordo, fino a un certo punto facciamo battaglia, dopo un certo punto della gara le posizioni sono quelle e ce le portiamo alla fine. Cioè, fatti in là, lasciami lavorare, è stata la frase. È più o meno quello che ha fatto Vettel, che si è infilato sul rettilineo fra muretto e la macchina di Webber, in uno spazio dove non ci passava la macchina, cioè è riuscito a passarci lui, rischiando un incidente che sbatteva fuori tutte e due le Red Bull, invece lui è riuscito a superare Webber, poi quando sono arrivati sul podio si sono guardati in cagnetto. Io ti sto ascoltando e guarda, quasi cioè, ci sto credendo. Davvero? Cioè, tu stamattina ti sei alzato alle 9 per vederlo. Eh sì, un pochettino. No, cioè, certo, sai, c'è lo schermo. Buonanotte, con tutte le classifiche. No, guarda, mi hai convinto. Vogliamo parlare di Hamilton? Se proprio vuoi. No, dobbiamo parlare di Hamilton prima di tutto perché è arrivato terzo. Sì. Secondo breve perché... però, sì, su no, Hamilton brevissimo. Non è che possiamo stare... No, non tanto. Secondo perché dobbiamo... Scusa, Hamilton... Esatto, quello. Quello è Hamilton. Sì, va bene. Dobbiamo spiegargli che non corri più in McLaren. Hamilton, non corri più in McLaren. Quindi quando fai la sosta ai box, non devi andare al box della McLaren, devi andare a quello della Sauber. Quindi stai facendo più un appello per informazione, quello che stai facendo. Per appello. Chi non l'avesse Hamilton, capito... Devi andare dall'altra parte, non devi fermare. Cioè, cosa ha fatto? È entrato proprio dentro per cambiare le gomme. Esatto. Gli altri hanno detto vai via, non sei qua, guarda che non sei più qua, vai via via via. Questa cosa è, esatto, quindi... c'è il filmato sulla pagina Facebook, così parliamo anche della pagina Facebook di Dai e Vai. Sulla pagina Facebook di Dai e Vai il filmato in cui si vede Hamilton che arriva al box, si ferma quello della McLaren e gli dico guarda scusi, fino all'anno scorso bene. Questo comunque la Formula 1 è innegabile, trasparenza ovunque, perché in quel caso lì, anche se la televisione, anche se Sky, anche se le riprese non potevano immaginare quello che stava accadendo, beh comunque c'è una telecamera interna che ti sta curando e quindi vai insieme a quella telecamera e vedi che cosa ha fatto Hamilton in quel pit stop, tra l'altro sì, abbastanza imbarazzante, sì, diciamocelo chiaramente. Vabbè, comunque la vaccata di Alonso. La vaccata di Alonso, la diciamo. Scusa, stai parlando di Alonso? Sì, Alonso, niente, fermo al primo giro, in fondo al rettilineo, perché proprio la prima curva ha toccato Vettel, leggermente... Guarda, io non capisco niente di quello che stai dicendo, no. Facciamo parlare Alonso, che forse giusto, è meglio è che così ci vabbè, dice... comunque qualche... ha perso. Sì, no, facciamo parlare Alonso, che ha qualcosa da dire, perché sennò è inutile che stiamo qua. No. Abbiamo sfiorato la macchina di Vettel alla seconda curva, e poi durante il giro... Sì. Io non sentivo la macchina troppo male, penso che dalla TV non era troppo il danno dell'alettone in quel momento, sì. Okay. Sapevamo che al giro 3, giro 4 c'era da mettere le gomme d'asciutto, quindi sì, no, ma prima. Se ci fermavamo al giro 1 e poi al giro 4 eravamo ultimi con abbastanza distacco. Sì. Quindi cioè, mi ha fatto addormentare anche Alonso. Vedi, cioè, anche quando non guida mi fa addormentare. Vedi che era meglio se lo spiegavo io con la vaccata di Alonso. No, vabbè, perché tu sei rimasto al giro 2. No, al giro 1 non c'è arrivato al giro 2. No, al giro 1 sul rettilineo ha perso. Lui guardava avanti. No, adesso io voglio dire, adesso tu sei un po' distratto, non hai capito. Te la ripeto. Guarda, Così. Ecco. Sfiorato la macchina di Vettel alla seconda curva. E poi durante il giro io non sentivo la macchina troppo male. Sì. Penso che dalla TV non era troppo il danno dell'alettone in quel momento. No. E sapevamo che al giro 3, giro 4 da mettere le gomme d'asciutto. Quindi, ma questo non c'entra. Se ci fermavamo al giro 1 e poi al giro 4 eravamo ultimi con abbastanza distacco. Allora, non ho capito che cosa hai fatto. Perché? Non sei fermato. Cioè, non ti sei fermato, hai fatto casino. Diciamo, non si è fermato, è arrivato sul rettilineo, si è staccato l'alettone, gli è finito sotto la macchina. Quando è arrivato in fondo non è riuscito a frenare. Sì. Via, finita la gara. Questo perché tu sei capace a tradurre quello che ha detto lui. Però, giro 3, giro 4, giro 1, l'alettone, la seconda curva, giro 3, giro 4. È semplicissimo. ecco. È andato così. Comunque la Ferrari fuori, praticamente al primo giro Alonso ha finito il suo Gran Premio e niente, mi dispiace per Alonso. No, adesso è vero? Non lo so, secondo me può essere vero. Potrebbe essere vero. Possiamo chiederlo anche ai nostri ascoltatori, sì, se ci credono, perché tra l'altro dov'è che c'è il sole? Da nessuna parte. Da nessuna parte, perché nessuno ci sta ancora mandando sms al 349-238-6666 per avere almeno un piccolo monitoraggio su dove c'è il sole in Italia, in questo momento qua. Questo per darti un'idea. No, non ci credo. No, tu hai voluto fare l'ottimista, ma non è il momento, intanto, tra le altre cose. No, però ecco, di sicuro però sta circolando mai questa voce, perché loro ci credono. Sì. Mi sembra che sia stato Al Sharawi a dire siamo la coppia più bella del mondo. Sì. In questo passaggio. Per fortuna non l'ha cantato, però no, diciamo l'ha detto. Però secondo me è stato carino. Anche quello, insomma, siamo la coppia più bella del mondo, cioè Al Sharawi, Balotelli. Esatto. Ora, dopo il golasso, diciamolo oggettivamente, il golasso di Balotelli contro il Brasile e anche la prestazione dell'Italia contro il Brasile, secondo me qualcuno ci comincia a credere. Comincia a pensarci, perché pensa, non so, la Confederation Cup succederà delle cose incredibili. Ricordiamo, perché la Confederation Cup sembra una cosa lontanissima, che succederà fra 3-4 anni. No, mancano 3 mesi, 4 mesi, porte, a giugno. E alle a porte. Giugno, siamo a marzo, siamo alla fine di marzo, a giugno, fra 3 mesi ci sarà la Confederation Cup con le migliori squadre dei vari continenti, ci sarà la Spagna campione del mondo in carica, il Brasile organizzatore dei mondiali, l'Italia perché abbiamo perso in finale con la Spagna, agli europei, quindi rappresenterà l'Europa, le migliori squadre, giocheremo col Giappone, il Messico e il Brasile, quindi ecco, vabbè, insomma, la domanda, tutto questo pippone qua è per dire, allora ci sono coppie che in qualche modo possono contendere questa cosa, non mi fare il segnetto così, mi fermo. Sì, perché c'è questo problema, che se fai questa domanda, ci sono coppie, tutti dicono coppie italiane, no, di altre nazionali a livello mondiale. Sto per finire tutta la frase dicendo ci sono coppie che possono competere con Balotelli e con Al Sharawi a livello internazionale? Sì o no? Ci sono altre coppie in questo? Tutti pensano Messi. E poi? Beh, Messi è uno. Messi è? Higuain, dai, Higuain. Coppie, cioè voglio dire, perché tanto poi andiamo poi a cercare, perché anche questi qua che continuano a dire del Brasile, no? Cioè, hai visto, no? Il Brasile. Niente, cioè c'è Neymar, è vero che c'è Neymar, ma poi c'è Oscar, c'è Luis Fabiano, cioè non è che abbia un altro giocatore di alto livello per quanto riguarda l'attacco del Brasile, quindi sì, forse l'Argentina c'ha Messi, Agüero, Higuain, Lavezzi, però poi il discorso è così. Che altre coppie internazionali voi ricordate che secondo voi sono all'altezza di Sharawi e Balotelli? Ecco, per esempio la Germania. Podolski? Klose? Klose? Gomez è vecchio, lo fanno giocare mezz'ora anche nel Bayern di Monaco, ecco. Podolski e Klose. Vabbè, ne parleremo in altri momenti, direi, certo. In questo caso ne parleremo in altri momenti, intanto attenzione, perché intanto continuano a giochettare alla grande questi simpatici veronesi, mettendo in difficoltà questo gradevole Crotone. Ti è piaciuto? Sì, gradevole Crotone. Gradevole, perché al massimo non è che possiamo mettere, ci ha creduto il Crotone, capocannoniere del campionato. Vabbè. Comunque, allora andiamo invece alla notizia che secondo me è abbastanza curiosa e interessante, anche se arriviamo un po' in ritardo, tra virgolette. Sì, è di questa settimana. È di questa settimana, no? Ma arriviamo un po' in ritardo anche perché tra poco arriva il traffico, soprattutto, no? In questo passaggio, e quindi la cosa più interessante è svolta del CONI. Sì. E tutti subito questa. devi prova a tempo, sì. Svolta del CONI, questa, stop, esatto, per le tessere gratis ai politici, per i politici allo stadio. Una mossa populista del CONI, assolutamente, diciamo, una mossa populista, assolutamente, cioè, volevo questa mossa qua l'avessero fatta 7 anni fa, 6 anni fa, non, certo, una idea. Adesso sono, certo, tutti bravi, certo, eh. Cioè, adesso è troppo facile, voglio dire, no, in questo passaggio, ecco, vabbè, adesso mai si segue un po' l'onda lunga e si va a cercare appunto un po' anche questo tipo di rinnovamento, forse è un rinnovamento, ma in realtà viene castigato chi in questo caso? Viene castigato il politico? Sì, il politico appassionato di calcio che non paga il biglietto va in tribuna gratis. Certo, certo, voglio dire, però io stavo pensando alla signora che era della, presidente governatore della Lazio, del Lazio, la, no? Polverini. La Polverini che è andata a cavallo proprio nella curva degli irriducibili, sì, poco prima di essere eletta. Chissà in se ha pagato il biglietto. Chissà se ha pagato il biglietto, magari come l'irriducibile, esatto, comunque un contributo. Nel frattempo abbiamo al telefono Franco Mirabelli, senatore del Partito Democratico. Pronto, Mirabelli? Buongiorno. Buongiorno. Ecco, Mirabelli, siccome sono 16:45, resti lì con noi al telefono, perché adesso andiamo col traffico, ma torneremo subito da lei. Dai e vai. Non è solo calcio. È solo un gioco, Paul. Non mi dire così! Per favore, è la cosa peggiore, la più stupida che uno potrebbe dire. Perché mi sembra evidente che non sia soltanto un gioco. Sì, insomma, se lo fosse, pensi forse che me ne fregherebbe così tanto? Eh? Eccoci a voi, eccoci, anzi a lei, senatore. Pronto, mi sente? Pronto, benissimo, grazie. Oh, ecco. Noi abbiamo cercato da un quarto d'ora di contattarla, però lei era al telefono probabilmente per prendere dei biglietti per Inter-Juventus, immagino, no? La prossima settimana. Credo che non ci sarò. Non ci sarà. Vabbè, però basta andare a comprarli. Sì, poi l'Interclub che presiedo ha dei canali preferenziali per l'Interclub, quello del Senato, lei è presidente dell'Interclub? No, sono ancora presidente dell'Interclub della Regione Lombardia, perché prima ero consigliere regionale. Quindi è più facile anche prendere il biglietto più vicino per certi versi. Quindi c'è un Interclub all'interno della regione in questo caso? Sì. E soltanto eletti oppure ci abbiamo anche qualcun altro? No, non ci sono solo eletti. C'è un eletti, po' di tutto. Dipendenti, sì. Ho capito. Ma siete un interclub riconosciuto dal coordinamento degli interclub? Eh? Assolutamente sì. E che benefit avete da sto fatto? Quasi niente. Quasi niente. Lo dice un po' così. Il kit che viene dato all'iscritto e poi appunto la possibilità di prenotare i biglietti un giorno prima degli altri. Ho capito. Ecco, senta, quindi niente, l'Inter non va a vederlo, l'Inter Juve. Non credo di andare via. In vacanza, certo, riposare. In questo passato. E dentro uno stadio in questo momento no? No, sono a casa in questo passaggio. Allora, cosa le sembra, insomma, questa mossa che segue un po' l'onda lunga di tutto quello che sta accadendo un po' in Italia? Cioè, togliere intanto, la prima cosa da togliere è togliere via le tessere gratis, subito dopo le auto blu, pensare subito alle tessere gratis ai politici allo stadio. Populismo del CONI, possiamo cambia un dire, po' il PIL italiano in questo caso, voglio dire. Direi che le auto blu sono un costo per la collettività un po' maggiore delle tessere del CONI. Le tessere del CONI erano sicuramente un privilegio che forse si poteva e si doveva evitare. D'altra parte mi risulta che alla Camera non venissero più richieste da molto tempo. Alla Camera non venivano richieste o non venivano date? No, non venivano, credo non venissero più richieste, non venissero date, però... alla Camera il problema non ci fosse, al Senato avevamo ancora il modulino per richiederla, però anche prima della notizia quasi nessuno l'aveva richiesta. Scusi, ma il suo collega, nel senso collega dal punto di vista politico, non di collocazione politica, Ignazio La Russa, però si è arrabbiato molto. Fa parte dell'Inter Club. Esatto, è collega in quanto collega di tifo. Si è molto arrabbiato, quindi vuol dire che qualche richiesta c'era, perché sennò non si sarebbe arrabbiato. Sì, può. Forse c'era, si vede che lui l'aveva richiesta e l'aveva ottenuta. Dopodiché si vede che la Russia considera la possibilità di entrare gratis allo stadio uno status symbol, non credo che abbia bisogno che abbia bisogno di soldi, e questa è una delle ragioni per cui è bene che venga abolito il privilegio. Cioè, quindi vabbè, insomma, ecco, però attenzione, perché riducete gli stipendi, poi dopo riducete, togliete via i benefit tipo queste, poi cominceranno ad anche a far pagare un po' di più il ristorante lì all'interno la buffette. La buffette è chiuso, al Senato è chiuso. Ah, è chiuso? Ah, avete già chiuso? L'hanno chiuso. Ah, sì, vabbè, insomma, sono momenti un po' così. Stiamo descrivendo un quadro veramente drammatico. Voglio dire, no, senta, apriamo un quadro in cui si rientra nella normalità. Apriamo una petizione per la vostra, cioè, quindi, scusate, ma voi adesso così a mezzogiorno tra mezzini? Cosa mangiate? Sì, o i tramezzini, o si esce dal Senato, si esce. E si va a mangiare lì fuori, dove si vuole. Sì, vabbè, spendendo quello che ognuno vuole, come tutti gli altri e come fanno tutti gli altri cittadini. Mirabelli, si è già guardato un po' intorno, visto che ci sono anche nuovi senatori oppure persone che magari novità all'interno del Senato, per organizzare l'Interclub al Senato? C'era già il club al Senato, ma vecchio. Adesso il presidente non è più stato rieletto. Per forza, è stato cacciato via. Adesso non è che non... mica rimane lì. Cioè, anche, credo che ci sia anche un club della Juve al Senato, sì, vabbè, quello. Per farla felice. Certo. La Sampdoria, scusa, siamo un po' dappertutto, noi come dunque gli Juventini, per dire. No, cioè, in Regione Lombardia no. Sì. Vabbè, perché provato a farlo, siete settari. Vabbè. No, è che perché non si è sentito. Avete provato a farlo, ma non ci siete riusciti. Vabbè, ha detto Mirabelli, senatore Mirabelli, ricordiamo qua, esatto. Dai e vai. Ci vogliono almeno 50 iscritti e non ce l'avete fatta. No, vabbè, meno male. Mica entriamo nella casta regionale, tra l'altro. In questo passaggio. No, invece lì è molto interessante perché, voglio dire, ci saranno un sacco di persone nuove, non so, immagino i grillini con gli scambi, non vi darete l'80% sono nuovi. Esatto. Sì. No, dico, voglio dire, sarà imbarazzante, voglio dire, ok, sei interista, il fatto che non vi stringerete la mano con i grillini in alcuni casi. No, perché? No, voglio dire, no perché non ve la stringono loro, non è che lei non è vero neanche questo. Non è vero neanche questo, poi. È una leggenda metropolitana. Quindi ormai stanno costruendo delle mitologie che Sì. Allora possiamo, parleremo con la Rosi a questo punto, prima o poi. Noi intanto le ringraziamo, lei mi sta assicurando che praticamente questo qua è un taglio che c'era già, quindi in realtà No, al Senato era ancora possibile. Però nella sostanza quando ci hanno consegnato il kit dell'eletto c'era il modulo per richiedere la testa del CONI. Io so che molti di noi non l'avrebbero richiesta comunque, ed è giusto che sia stata abolita. Dopodiché mi risultava che già alla Camera ci si dovesse prodigare per averla. Però con la tessera lì faceva andare anche da altre parti, a vedere altri sport? Perché era la tessera che consentiva l'accesso a tutte le manifestazioni. Quindi anche basket, pallavolo? Tutte le manifestazioni. Però guarda che non era male, lasciare solo la tessera soltanto per il tamburello, no? Il rugby subacqueo, che noi siamo molto affezionati dal rugby. Lei dice che a questo punto, essendo gratis, avrebbe avuto gli spalti pieni in Parlamento. Esatto, guarda che avrebbe avuto un grande rilancio. Ma nei corridoi nessuno si è lamentato, cioè non ha sentito quel niente, proprio zero, tutti in questi giorni ci stiamo occupando d'altro. Perfetto. No, adesso smettiamola, c'è un retorica. Aspetto positivo di questa nuova legislatura, però per la nazionale di calcio dei senatori avete molti giovani da mettere in squadra. Questo sì. E poi abbiamo anche, diciamo che dal punto di vista atletico abbiamo una forma, possiamo mettere in campo risorse. Josefa Idem è una risorsa. Sì, a calcio però non la vedo molto bene. Comunque, è meglio evitare di andare a provare. Esatto. Comunque, senatore Mirabelli, visto che si occuperà di altro, sabato prossimo le manderò un messaggio sul risultato di Inter Juventus. Ci sentiamo sicuramente, la ringrazio. Grazie, a presto. Salve. Shall we nation? Wow, creation, and we do bow down on nobody's ground. I love to hear them call my Indian ring, the golden eagle, swam. mi spiace per Marco che ha acceso ora, però della Formula 1 abbiamo esaurito tutto l'argomento, tutto quello che c'era da dire. Però se ha mai qualcosa da dirci, no, magari semmai dopo ti faccio risentire che cosa ha detto Alonso, che così magari se la risento magari capisco. Ma cosa magari vorrei. Anche Marco la capisce, eh? Sì, a Rocella Ionica ci dicono splende il sole, hai visto? L'avevo detto. A Salerno c'è il sole, hai ci visto? Dicono. Lo questa... sapevo io. Cosa lo sapevi? Lo sapevo. Hai detto dall'altra parte. Scusa, cioè, magari Rocella Ionica vicino a Caprizio. In questo modo, in qualche modo poteva essere interessante. Però ricordatevi ancora il 349-238-6666. Mappateci questo sole, sole d'autunno. Ma in realtà no, è il sole di primavera, esatto, che non c'è. Questo tiepido sole di primavera che non c'è in realtà, tra le altre cose. Non c'entra niente con lo sport, lo sappiamo. Però c'entra con questa trasmissione. Perché se no già è uggiosa la giornata. Ci deprimiamo. Che, ecco, esatto. Visto per non deprimerci, possiamo dare i risultati, però. Intanto, sì, perché Serie sono, B. Sono finite le partite. Brescia-Cittadella è finita 2-2. Livorno-Lanciano 2-0. Novara-Ascoli 1-0. Regina-Juve-Stabia 2-1. Sassuolo-Ternana 0-0. Il Verona ha vinto 3-2 con il Crotone. Vicenza-Varese 1-1. Poi ieri Padova-Modena 0-1. E Grosseto-Cesena 1-2. Oggi alle 12.30 la Provercelli ha vinto a Spezia 3-1. Vabbè, insomma, ma però possiamo anche fare una cosa, che proprio per far capire che cosa abbiamo detto su Alonso, possiamo proprio rimandarlo proprio ora, in questo momento, arriva, aspetta, che è un po' più lento di quello che sembra. Alla seconda curva, e poi durante il giro io non sentivo la macchina troppo male, penso che dalla TV non era troppo il danno dell'alettone in quel momento, e sapevamo che al giro 3... Scusa, questo passaggio qua mi sfugge. Sì. Penso che dalla TV non era troppo il danno, esatto, all'alettone. Te lo vuoi che te lo spiega, no? Nel senso che lui guardava, no, ai box, cioè, guardavano la TV, ai e box, poi per radio gli dicevano vai tranquillo, sereno, non c'è niente di rotto. Però per sapere che qual era il danno, cosa faceva? Guardava la televisione? Sì, quelli ai boxing. Anche loro hanno l'abbonamento a Sky? Sì. Tiro 4 c'era da mettersi, da mettere le gomme d'asciutto, quindi se ci fermavamo al giro 1 e poi al giro 4 eravamo ultimi con abbastanza distacco. Fun to lose and to pretend she's overboard and self-assured. Oh no. Per quelli che non hanno conosciuto, era Alonso. Così questa voce, sì, quando c'è questa musica. Ma anche Alonso, se avesse fatto l'intervista. Sì, certo, è finita comunque, la Serie B siamo a posto. Sì, no, stasera. Empoli-Bari. Non voglio perderla. Sì. 349-238-6666, da voi c'è il sole. Dai e vai, non è solo calcio. Non hai neanche preso i biglietti. Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano. Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto? Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase. Noi non supereremo mai questa fase. Big oaks, the old folks, there's a monster hanging down. vento forte ma sole al massimo a Corato Bari, provincia di Bari. Cioè a Bari c'è il sole in questo caso. Beh, tutto sud mi sembra. Dai, quasi vai, tutto dai sud. Vai, Radio 24 qui ancora con voi cari ascoltatori. Ebbene sì. Sai cosa ci scrive Carlo sulla pagina Facebook? Dice: beati voi che a Milano piove, qui a Zagabria nevica. Vabbè, cosa c'entra? C'ha ragione Carlo. Sì, mentre Marco e Gianluca, tutti e due sono in uno in Valle sempre d'Aosta. Su Face. Sì, sempre su Facebook. Pagina Facebook di Dai Vai, uno dice ad Aosta piove e l'altro in Valle d'Aosta piove. Vabbè. È molto più è diverso. Tra l'altro è strano perché in Valle d'Aosta di solito potrebbe nevicare anche no, perché Valle è più d'Aosta larga. Piove, dice Gianluca. Sì, secondo me non sono così, Sfumiamo lentamente, vi diciamo dei nomi, diciamo Giuliani, diciamo Tozzi, diciamo Malinverni e ultimo diciamo Mennea. Era il 1980, era Mosca ed era la 4x400 ed parliamo direttamente con Malinverni ovviamente per ricordare insieme, per cercare di raccontare aneddoti legati a Pietro Mennea. Pronto Stefano Malinverni, pronto? Buonasera a tutti. Di questo no, ormai noi dobbiamo in qualche modo raccontare agli ascoltatori e dare altri aneddoti, cercare di approfondire un po' no, anche la vita e quegli eventi un po' particolari. Confesso che quando mi hanno chiesto, allora ricordati 4x400 con Mennea, la stragrande maggioranza delle persone hanno tutti detto, ma no, guarda, è sbagliato, 4x400, no, è proprio un altro tipo di allenamento, è un'altra cosa, è un'altra storia, e invece ha fatto proprio per 4x400, giusto? Certo, lui era ovviamente uno specialista delle prove più brevi, però avevano così sospettato che avremmo potuto fare qualcosa di grande con lui, e in effetti così è stato. Perché dopo che abbiamo passato la semifinale con il record italiano, hanno pensato bene i tecnici di dire: ma proviamo a vedere se riusciamo a fare anche qualche cosa di buono anche nella 4x4, e così è stato, insomma. Ma avete fatto degli allenamenti particolari, lui come ha reagito di fronte a questa proposta? Ma lui era un personaggio particolare che si allenava duramente, per cui per lui non era il problema la distanza, anche perché aveva nelle gambe tanti di quei chilometri che avrebbe potuto fare anche gli 800, per cui era semplicemente un diverso atteggiamento mentale, perché ovviamente la gara di 400 è una gara particolare, per chi non la conosce è una gara insomma di fatica, è chiamato il giro della morte, esatto. Per cui anche lui non è che l'affrontasse con molta leggerezza, sapeva che era una gara dura, però visto che aveva l'opportunità di poter fare ancora qualcosa di grande, l'ha fatto e ci ha dato una mano e ha scritto una storia al nome di anche di noi, insomma, insieme al suo. Durante la preparazione nelle settimane precedenti alle Olimpiadi, che cosa avevate notato? Perché una delle cose di cui si è parlato molto sono questi carichi di lavoro che lui faceva. Li chiedeva anche a voi in quella situazione in vista della 4x4? No, ma diciamo che lui ultimamente, prima delle Olimpiadi, aveva cominciato ad allungare un po' il tiro, nel senso che lì doveva fare diversi turni, indipendentemente se avesse fatto poi anche la 4x4 o meno, per cui i suoi carichi di lavoro erano diventati ancora un po' più pesanti. Diciamo che i suoi carichi di lavoro erano inimmaginabili rispetto ai nostri carichi, nel senso che con la qualità, la velocità con cui li metteva negli allenamenti, noi duravamo 2 o 3 giorni, lui durava di mesi, per cui era impensabile fare dei carichi ancora più elevati in vista per noi, perlomeno noi facciamo quello che riusciamo a fare. Lui si è semplicemente ha aggiunto qualche distanza un po' più lunga per poter far fronte agli ultimi 100 metri, che sono quelli che poi creano problemi a tutti, anche a gente come me che fa 20 netti, anche sotto il 19,70. Ecco, lì normalmente in una staffetta si mettono i più forti, o in prima staffetta o in ultima staffetta. Nel caso di Mosca, Mennea era l'ultimo staffettista. Com'è che andò la gara? Perché ci fu la vittoria dell'Unione Sovietica davanti alla Germania Est, che erano inavvicinabili. Voi ve la giocaste con la Francia? Sì, ce la giocavamo con la Francia, e soprattutto l'ultimo cambio ci fu un pasticcio degli inglesi che persero il testimone con un contatto durante la bagarre del cambio. E Pietro inseguì l'ultimo frazionista della Francia, che era De Marton, e riuscì ad acciuffarlo proprio negli ultimi 5 metri all'arrivo proprio. E tant'è che De Marton poi, visto si è superato l'ultimo metro, si mise a piangere proprio come un bambino. E mi ricordo Pietro che tornò poi sui suoi passi e andò a consolarlo, perché capiva che cosa voleva dire perdere una medaglia, forse l'unica che avrebbe potuto conquistare con questo atleta. E appunto Pietro si fermò e addirittura gli diede una pacca sulla schiena, e quasi a consolarlo, ecco, perché capiva il momento, per noi era di gioia, ma per altri era diventato un po' pesante, insomma. Ma voi vi aspettavate questa medaglia? Speravate o vi aspettavate questa medaglia? Ma io non posso parlare per me, non sì, so per sì, altri, sì, diciamo sì. Che io personalmente ero contento di essere arrivato in finale, e dico adesso vediamo, ce la giochiamo, qui le staffette può succedere quello che succede, ma in effetti la medaglia magari si parlava, ma era proprio un sogno, diciamo. Io sinceramente non pensavo, poi però alla fine siamo riusciti a farlo. Forse anche il fatto comunque di non pensare troppo al risultato, poi alla fine aiuta, anche perché probabilmente più leggeri toglie quei freni inibitori che a volte invece nelle prestazioni di alto livello contano, insomma. Così, ma una curiosità, ma è una sensazione, quindi ha un peso specifico più diverso da qualche giorno questa medaglia? In che senso? Nel senso che, insomma, adesso di colpo è la medaglia che è stata vinta. Sì, prima era la medaglia delle Olimpiadi degli 80, adesso diventa la medaglia delle Olimpiadi degli 80 vinta con Mennea. E ha un altro peso, forse, no? In questo caso, anche storico, in questo passaggio. Ma certo, ovvio, se ne è dato un pezzo di storia dell'Italia. È ovvio che forse addirittura come quando i pittori, diciamo, fanno i quadri. Sono forse più valutati dopo la dipartita dell'artista. In effetti questa assume un valore ancora più grande, perché adesso lui è diventato veramente leggenda. Prima non lo era ancora, adesso che se n'è andato è diventato una leggenda, e noi abbiamo fatto parte di questa sua vita, di conseguenza anche siamo diventati anche noi, grazie a lui, di storia. Com'è che avete festeggiato quella sera dopo la medaglia? Abbiamo festeggiato, diciamo che quella sera c'è stata una perché secondo le staffette sono le ultime gare, c'era poi la festa di finale e lì ovviamente c'era la classica festa con tutti gli atleti e ovviamente è andata a terra luce vino, insomma. Avete fatto qualcosa che non si può dire. Non vogliamo sapere tutto, ovviamente, io avevo 21 anni, gli altri 21, lui aveva 28. Ah, abbiamo capito. Potevano fare i ragazzi. Certo. Questi giovani pieni di energia e pieni di forza, chiaro. Insomma, era... Vabbè, ha letto presto, detto, come tutti gli atleti. Ha detto caccia libera. Come caccia libera? Vabbè. Grazie Stefano Malinverni, grazie per la sua testimonianza. Grazie a voi. Buona giornata. Ricordiamo i Tozzi, Giuliani, Malinverni e ovviamente Pietro Mennea. Dai e vai. Non è solo calcio. Bologna, abbiamo il sole dentro, è così che dicono. Dentro, no? Quindi fuori ciccia, capito? Ai box Ferrari sono uggiosi, plumbei e incapaci. Vabbè, cosa c'entra? Questa è polemica. Questa cosa qua. Sì. A Novara c'è il sole, ma piove birra. Francesca, Dai, no, diciamo più che piovere, se ne è bevuta un po' troppo. Lascia stare, no? Lascia stare, non fare così, Francesca, dai, su. Ricordiamo, formate anche voi la coppia più forte di una nazionale che parteciperà ai mondiali. Qual è la coppia più forte secondo voi? Beh, adesso diranno tutti quella di Messi, l'Argentina e via dicendo. Però in realtà la nostra coppia continua a dire che è invece la più bella del mondo. L'ha detto Al-Sharawi, ha detto no, io e Balo, perché confidenzialmente sì, Balo. Io e Balo siamo i più forti del mentre mondo. Mentre Balo te le dice io e il faraone, sì, sì, sopra queste cose qua. Una roba simile. Il faraone. Dai. Ha detto io e il faraone. Sì. Questo è un po'. Ma non ho capito, se lo fa lo fanno le invitazioni, esatto. Lo fanno tutti. Lo fa Savino, va bene, lo faccio io, va male, non ho capito. Commissario tecnico della nazionale, tiro a volo. Esatto. Parliamo qua. Proprio con lui, cioè, cari ascoltatori. Commissario tecnico, cioè il massimo che ci sia nel tiro a volo in Italia. Ecco, in questo caso qua. Albano Pera, pronto? Sì, buonasera. Buonasera, come sta? Bene, grazie, tutto a posto. Ricordiamolo, Albano Pera, anche medaglia d'argento ai Giochi Olimpici nel tiro a volo di Atlanta 1996. Come no? Eravamo lì a commentare, esatto. In questo caso. Esatto. Con Albano Pera dobbiamo parlare di una grande novità dal punto di vista regolamentare e tecnico nel tiro al volo. Sono cambiati i regolamenti. Albano Pera immediatamente, diciamo, non si è dichiarato d'accordo su questi cambiamenti. Malgrado questo, no, però, i tiratori italiani stanno andando benissimo. Perché non è d'accordo sui cambiamenti regolamentari? Prima di tutto, quali sono e poi perché? Non sono d'accordo perché purtroppo stanno cambiando il senso del nostro sport. Il nostro sport viene considerato in questo momento come i primi giorni di qualificazione, viene fatto come qualificazione anziché di gara. Sì. E poi diciamo che quando si arriva alla fine, dove prima arrivavamo a 125 piattelli, da lì si riparte da zero su 15 piattelli. E per fare una semifinale e poi un'altra finale per le medaglie, ancora 15 piattelli. Ah, quindi cioè, non vengono più considerati i piattelli precedenti, viene azzerato tutto. Esatto. E perché esatto. Questo? Viene azzerato negativo? Tutto. Perché questo? I dirigenti a livello internazionale ci hanno detto che tutti gli sport fanno così. Io gli ho detto che è vero che molti sport fanno in questa maniera, non la maratona naturalmente, però gli altri sport fanno così, però fanno sempre, non so, i 100 metri, continuano a fare i 100 metri per qualificazione finale. Non è che fanno 100 metri nelle qualificazioni per fare 20 metri nella finale. Ci fanno, non so, chi gioca a tennis fa 3-7, sempre 3-7. Chi gioca a pallone fa 90 minuti di calcio e 90 minuti di calcio anche per la finale. Invece a noi no, a noi ci fanno fare 125 piattelli e poi dice questa è qualificazione. Poi i primi 6 li mettono assieme a sparare da zero su 15 piattelli. Cioè non ha senso, no. Effettivamente. Però con questa storia però ci stiamo comportando ancora bene? Sta andando bene? Ascolti, noi stiamo andando bene perché... Siamo bravi, diciamolo. Sono bravi, ma poi ci siamo già preparati per questo. Non è che adesso non ci piacciono le qualificazioni, allora cosa facciamo? Le rifiutiamo? No, sappiamo che per vincere dobbiamo passare attraverso quel passaggio e quello facciamo, insomma. Quindi ci siamo preparati per questo. Quindi i ragazzi sono pronti anche per questi cambiamenti. Speriamo di poter fare... di poter tornare indietro e cambiare qualcosa, non dico di eliminare tutto quello che è stato fatto, ma cambiare qualcosa ancora che sia più giusto, che vinca il più forte e non il più fortunato. Questo deve essere il concetto base che deve animare le decisioni che vengono fatte. Ecco. Voi siete riduci dalla Coppa del Mondo, la prova di Coppa del Mondo che c'è stata ad Acapulco in Messico. Tra l'altro, gli atleti del Double Trap hanno avuto anche un problema con i fucili, nel senso che i fucili non erano arrivati, giusto? Sì, sono passati da Parigi quando c'era quella bufera di neve. e loro sono passati, però i fucili sono rimasti bloccati a Parigi, hanno avuto, cioè la neve ha bloccato i fucili parecchi, poi sono arrivati insomma il giorno prima della gara. Ma erano, quindi, quei fucili in tempo utile. Sì. Ah, tutti quei fucili sono arrivati, cioè non sono arrivati, sono arrivati quelli del double trap. Ah, sì, sì, sì. Quindi c'è stato soltanto un problema di neve che ha bloccato un po'. Cioè, sì, diciamo che a Parigi c'è stato un grande problema sui bagagli e purtroppo loro sono passati in quel momento lì e i bagagli sono andati un po' smarriti. Poi l'hanno ritornati tutti, però ci hanno impiegato una settimana ad arrivare. Sarebbe stato un bel problema, no? Se non fossero arrivati. Avrebbero tirato con dei fucili in prestito dal momento che erano lì, però non sarebbe stata la stessa cosa sicuramente. Quanto è importante? Quanto è importante? Fucile, diciamo che è il prolungamento del braccio, fa parte della persona, è un qualcosa studiato e fatto a misura per l'atleta, quindi quindi è fatto su misura il fucile? Certo, il fucile è fatto, sì, il calcio, le bindelle, il calcio, l'asta davanti, è fatto, ogni fucile è molto personalizzato da parte dei tiratori. E cosa conta? Cioè il braccio lungo, il braccino corto, com'è che funziona? Certo, uno che ha 1,90 m non avrà lo stesso fucile di uno che ha 1,60 m. Sono due cose completamente diverse. Anche come peso? Sì, anche il fucile da donna non è uguale a quello da uomo, sicuramente, voglio dire. Quindi ci sono varie, ognuno ha il suo. Ma una domanda così, tanto per... Ma quanto costa un fucile su misura? Ma il su misura non costa niente, il su misura. Diciamo quanto costa il fucile. Il fucile si fa su misura, tutti quanti vengono fatti su misura. Cioè nessuno compra un paio di scarpe del 40 se ha il 45, voglio dire. Sì. Quindi nessun tiratore comprerebbe un fucile troppo lungo, troppo grande. Quindi il su misura è fatto, viene fatto praticamente di regola. Il fucile costano dai 1.500-2.000 euro, si va fino a fucili che costano 10, 12, 15 mila euro e anche per i grandi fucili, veramente quelli che sono delle opere d'arte, anche oltre 80-90 mila euro. Voglio dire, nessuno usa al tiro fucili che costano così cari, quelli sono fucili normalmente che sono per coloro i quali fanno i collezionisti, sono fucili. Ma io mi ricordavo uno sceicco. Delle vere e proprie opere d'arme. Non c'era uno sceicco che andava a tirare, che partecipava a qualche gara, mi ricordo. Sì, c'è Al Maktoum, uno sceicco giù degli Emirati Arabi. Che vabbè, lui avrà avuto anche altri fucili, insomma. Senta, un atleta che dovesse tirare non col suo fucile su 125 piattelli, quanto potrebbe incidere a livello di risultato? Non con il proprio fucile? Sì. Non il proprio fucile può incidere anche di 7, 8, 10 piattelli. Ah, quindi è determinante per una gara? Sì, è determinante, chiaro, ognuno ha il proprio fucile, è determinante. Grazie CT, la chiamano grazie CT? Gli atleti la chiamano CT? No, i miei ragazzi mi chiamano qualche volta CT, qualche volta mi chiamano Albano. Però si usa il commissario tecnico CT? Lo chiamano CT. Sì, grazie CT, allora, grazie, a presto. Grazie. Albano Pera, ovviamente un mito, una leggenda nello sport del tiro al volo, e qui con noi sono le 17:25. Ricordatevi che questa è Dai e Vai, Radio 24, ma soprattutto che cosa? 349-238-6666, dov'è che c'è il sole qui in questo momento in Italia? Non tantissimi, sì, siamo non arrivati a 5-6 posti soltanto. 5-6 posti ce li abbiamo, Vabbè, insomma, te stai contenti. Io ma contento sempre. Certo, adesso. Basta che guardo fuori dalla finestra, ma contento in ogni caso. Vabbè, certo. E pensi che cosa? Pensi, non so, dove? Cioè, a Novara, pensi a Novara. Penso a Corato, penso... C'è il sole. Piove. A Bologna, dove c'è anche il sole, vabbè, pensi insomma a delle cose che stanno in giro. E ricordatevi anche l'altro passaggio, perché pochi invece hanno cominciato a dirci qualcosa per quanto riguarda le coppie vincenti per questo mondiale, le coppie vincenti delle nazionali, no? Noi abbiamo già messo giù abbiamo un elenco di alcune coppie, ovviamente fra le migliori c'è quella dell'Argentina, perché è tutta incentrata attorno a Leo Messi del Barcellona, però vabbè. Attorno a lui Messi, Alghero, poi dopo Brasile c'è Neymar con Oscar del Chelsea, o Luis Fabiano del San Paolo. La Francia beh, sicuramente Benzema, Giroud, Benzema del Real Madrid e Giroud dell'Arsenal. Però vedi, cioè uno dice Benzema, Giroud, e poi dice Balotelli e Sharawi. Cosa c'è? No, dico più forte Balotelli, cioè, se io devo, se devo scegliere, io scelgo Balotelli e Sharawi. Sicuro? Beh, sì. Vabbè, ti dico Rooney. Rooney Welbeck, la coppia del Manchester United, che è anche quella della nazionale. E tu dici di nuovo Balotelli e Sharawi? Io, beh, lì sono combattuto, però effettivamente Cavani Suarez. Già qua è un po' diversa, perché Cavani Suarez sono due bei punteri. Vedi allora, qual è la coppia più bella del mondo? Insomma, Pedro Villa. No, lì è Cavani e Sharawi. Scusate, che è Cavani e Sharawi. Balotelli e Sharawi tutta la vita. Ma dai, anche Cavani e Sharawi, però che ci penso. Cavani e Sharawi. No, ma scusa, cioè Pedro Villa, cioè Spagna, la Spagna. Esatto, però la Spagna, coppia d'attacco. Esatto. Cioè tutto quello che ha vinto qualsiasi cosa. Allora, togli Iniesta, togli tutti i centrocampisti e poi vediamo cosa fanno Pedro e Villa. Sì, loro non è che sono così scemi. Cioè, capito? No. Non è che mandiamo Pedro e Villa da soli. No, c'è dietro Iniesta, c'è dietro tutti gli altri, quindi metti Iniesta e tutti gli altri dietro a Balotelli e Sharawi e vediamo. Non è questo, vedi che stai confondendo gli ascoltatori in questo modo qua. Non era questo. Vabbè, allora andiamo via. Pubblicità e metodo, ti spiego fuori onda. Ti spiega, no, perché togli Sharawi e Balotelli. Dai e vai. Non è solo calcio. Freddo e pioggia. Basta che non tiri vento. Non ho finito. Ah, scusa. Freddo, pioggia, che palle. Poi? Basta, finito. Questo puoi dire della tua. Ragazzi, la coppia più brava. Vabbè, niente. Poi dopo c'è la trasmissione. C'è il sole, ma non dice dove, però è in macchina e questo ci riempie di gioia nella sua macchina. Ciao, mia figlia Silvia. Quindi il sole è sua figlia. No, e con sua figlia il sole è sua figlia. Nino, che dice questa cosa. Però ci suggerisce invece Eliano di Como. No, come che si chiama? Eliano. Sì, guarda, ho sbagliato gli occhiali, non mi mettere sempre in crisi. No, è laggiù in fondo, non lo vedo, ho gli occhiali pigri. No, ma è vero che si chiama Eliano, il problema gli occhiali è da vicino, nome, cioè, gli occhiali, te lo dico, gli occhiali da lontano, però dovrei avere quelli da vicino. Insomma, vabbè. Comunque adesso non ti spiego tutte queste cose, ma sarebbe bello anche una coppia del passato. In realtà, cioè, adesso Meazza Piola, stiamo parlando di una cosa così. Meazza Piola, però tu adesso non te la ricordi. Troppo del passato? No, però voglio dire, li ho visti giocare all'arena, io ero lì sulle gradinate dell'arena. Meazza Piola, anche se non erano in coppia, facevano giocavano per cavoli loro, no? Hai capito? In realtà le coppie famose in Italia, la coppia forte Riva Boninsegna. Ma no. Vedi che Riva giocava per cavoli suoi, poi giocava Boninsegna, però era Riva che trainava, cioè tanto perché Graziano e Pulici, no? Vialli Mancini. Viale Mancini, per Vialli esempio. Viale Mancini è già più coppia, anche se poi in realtà. No, ma grandi. Viale Mancini, finale scudetto vinto nel 91, finale di Coppa dei Campioni. Sì, grandi persa. Risultati. No, Coppa delle coppe. Coppa delle coppe vinta. No, se tu dici finale scudetto, devi dire poi dopo persa. No, Coppa vinta. Dei Campioni persa. Finale per una punizione inesistente tirata da Koeman. Sì, però sempre a buttare a ridere te, no? Invece una cosa seria, sto cercando di lanciare anche questo aspetto, cioè chi sono le grandi coppie, cioè in questo caso, cioè non mi vengono anche tre, anche in Italia. Ma scusa, Baggio e ma Baggio, quando mai? No. Cioè, Baggio è e cosa? Che coppia, indimenticabile. Cioè, dico, Luca, indimenticabile. C'è un vuoto di memoria. Come faccio a dimenticare quello siciliano? Coppia? Ah, Totò. Totò Schillaci, Baggio Schillaci. Perché dai, tu la porti in nazionale? Io voglio vedere, tanto anche le grandi coppie italiane. Secondo te, quali sono le grandi coppie italiane? Luca Cancellara. Ce l'abbiamo. Hai alzato la mano, Luca Cancellara. Ce l'abbiamo. Filippo Maniero. Sì, il boss del Brenta. Ma dai. Di Napoli. Arturo. Ah, Arturo. Non c'è, ci siamo salvati, no? Ci salvati. Ma sì, ma adesso arrivammo 18esimi, stiamo... sì, io capisco contro nessuno, cioè, sì. Cioè, dire, parliamo di cose serie, cioè, dire, no, se no diventa anche Insigne Immobile, cioè, capito, no? Cioè, vabbè, Pescara l'anno scorso, l'anno vero, scorso con, secondo, con, me, esatto, secondo me quella era una grande coppia. Era una grande, cioè, coppia, sì, è vero. Pescara. E ti dirò di più, c'è una coppia che pochi si ricordano, perché non era una coppia, però giocavano insieme, no? E quindi, Del Piero e Trezeguet, che ci fu un anno che sì, furono la coppia che fece più gol in Europa. Cioè anche Del Piero e Inzaghi quando erano insieme non si rivolgevano parola, però tutto sommato erano... Vabbè, ma quello è un po' così. Vabbè, cioè, però erano una coppia. E Inzaghi che era un po' così, insomma. Inzaghi, perché è andato via prima, va bene. Vabbè, insomma, è andato lui via. Il traditore. È lui che se n'è andato via, ha voluto andare. Questa, no. Però a parte gli scherzi, cioè, dire, anche grandi... proviamo, no? 824-0024, 824-0024, siete a casa, la giornata è uggiosa, siete lì con la copertina, in televisione non c'è niente perché ormai avete visto tutti i gol della Serie B, no? Quindi 824-0024, se proprio volete telefonare, telefonate qua direttamente proprio per raccontarci la vostra coppia in assoluto. Poi dopo invece la coppia nazionale non abbiamo avuto granché. Chi c'è che ti ricordi di coppia nazionale? Roberto, aspetta, scusa Luca, preparati su questa domanda, sì, no? Perché poi dopo ti vedo impreparato. No, vai. Anche tu, Luca, sì, allarga gli orizzonti oltre il Venezia, che non è male. Come Venezia dire. Calcio, Venezia Calcio. Oltre, perché già in Laguna è un casino. Venezia Calcio. Roberto, pronto? Hai la coppia? Sì. Buonasera a tutti quanti. Io mi trovo a Bologna e poco fa ho sentito che avete detto che a Bologna c'è il sole. Beh, no, pioggia. Che... infatti, perché dicevo, chi ha segnalato questa cosa deve aver sbagliato, Pusce. No, no, vabbè, c'è roba buona in giro, insomma, no, quelle parti. C'è freddo e piove, spiovigine, c'è coperto, quindi è una giornataccia proprio. Però io la vedo positiva e mi sto divertendo, quindi... Ah, vabbè. E cosa stai facendo per divertirti, scusa? Sto raggiungendo degli amici qui in centro Bologna per un aperitivo. Sì, sarà sicuramente divertente, perché io non sono di Bologna, sono della provincia di Modena. Di Modena. Di Modena. Beh, cioè, straniero proprio, guarda. Felice perché ieri sera... Perché ieri sera Lenin Novellino vi ha portato ad espugnare Padova, vero? Sì, esatto. Io tra l'altro ho la mamma padovana, quindi è stato un derby casalingo. Mamma mia, che roba. Vinto da noi modenesi. Giusto, giustamente, giustamente. Secondo te, visto per stare in tema, la coppia Al-Sharawi e Balotelli è la coppia più forte del mondo in questo momento? Sì, potenzialmente lo sono. La basta soltanto che stiano leggeri, non si facciano troppi... Troppi capi. Ah, no, pensavo troppe lasagne, dicevo. quelle hanno sempre fatto bene. Ecco. Va bene, grazie Roberto. Ciao. Grazie, grazie. Abbiamo stabilito che a Bologna piove prima dell'aperitivo, ok? No, no, no, non soltanto, piove, no, punto, piove basta. Prima dell'aperitivo. Spillo e Juari. Beh, oddio, sì. Vogliamo... gemelli del gol proprio, sì, certo, se vogliamo considerarlo una grande coppia, sembra sempre... l'articolo Il, sì. Va bene, Spillo e Juari, la coppia degli anni, cos'erano? Gli anni 80 dell'Inter praticamente, sì, no? Sì, perché sì, Spillo, sì, ricordiamo, ha vinto il mondiale dell'82, Juari adesso era colui... Scusa, che... Spillo è riserva nel mondiale dell'82, è tra l'ultima partita. Io mi ricordo l'ultima quando, partita. Io entrato, mi ricordo, cioè, quando segnò, sì, quel gol e andò verso il centrocampo guardando, sì, la telecamera, senza neanche rendersi conto che stava vincendo, sì, il mondiale. Ma era l'ultima partita. Vabbè, comunque Spillo c'era anche Selvaggi nell'82, nessuno se lo ricorda. Però se lui non entrava non avremmo vinto. Antonio, salvaci, pronto? Salve, io di quei tempi ricordo, forse anche un poco prima, una coppia molto bella, assortita, Pierino Prati e Gianni Rivera. Beh. Prati-Rivera? Beh, diciamo, però alla fine... Sì, fine anni 70 più o meno. Dove doveva andare lui segnava sistematicamente. Sì. Ah, quindi Rivera gli metteva la palla lì e Prati non faceva altro che far plin. Sì, sinistra, fil di palo, in area, al centimetro e lui segnava. Io l'ho visto dal vivo ed era spaventoso. Vabbè, insomma, era facile, insomma. Ma tu sei milanista? Tu sei milanista? No, io... Beh, all'epoca ero juventino, per la verità. Adesso tifo solo per l'Avellino. Per l'Avellino. Come sta andando in Lega Pro? E la crisi? Stiamo andando bene, siamo avanti di 4-5 punti. Quindi... Ah, in testa alla classifica, hai capito? Dovremmo andare in Serie B. Vabbè, dai, si fa quel che si può. Ciao, grazie, grazie. Ciao. Grazie, salve. Ciao, Giulio. Sì, saluto. Ciao. Allegria con questa pioggia. Anche a Savona piove? Anche a Savona piove da diversi giorni. Vabbè, siete voi che ci tenete allegri. Vabbè, guarda. Argomenti così frizzanti, frizzanti, dai. Vabbè. Sì, è come l'acqua minerale, dai, vai. Dici. Sì, sì. Anastasia Bettega. Anastasia Bettega. Direi che soprattutto per la Juve hanno oggettivamente sì. costruito parecchi scudetti assieme, così diversi, piccolo e alto Bettega, poi uno mobilissimo, l'altro colpitore di testa. Ti dirò di più, nel momento in cui io mi stavo già di nuovo appassionando a Bettega, poi Bettega si è ammalato ed è sparito per un bel po', insomma, è sparito per un anno, due, se n'è stato in montagna. Però io mi ricordo a Villar Perosa, non vorrei dire una cosa, ma boschi, se non sbaglio si è ripreso più forte di prima, sì. Sì, se non sbaglio fece 11 gol in 10 partite, non vorrei dire Bettega prima di ammalarsi. Un'intesa particolarissima, ricordo un gol al Milan con una tacita intesa tra Anastasia e Bettega, me lo ricordo ancora in bianco e nero. Ecco, Bettega, tra l'altro, e tutti se lo ricordo come un grande, in realtà ha avuto una carriera veramente stellare per certi versi, però in realtà ha avuto delle grandissime sfortune, perché lui si è ammalato, è stato via 2 anni. Poi dopo è successo che praticamente ha portato l'Italia con i gol, l'Italia a Italia 82 l'ha portata praticamente Bettega, poi però non è stato convocato, perché si era rotto, ma attenzione, l'anno dopo è andato in Champions ed è stato fregato da Magat, perché pensano nell'83 ad Atene. Famoso. Vabbè. Ci sta tutto in una carriera di un campione. Oh, mi dai. Raccomando, copriti se devi uscire. Ciao Giulio. Ciao. Alessio? Sì, pronto, ciao. Aspetta un attimo, 800-24-0024 per quelli che vogliono ancora telefonare. Allora, la coppia che ti ricordi, insomma, la coppia d'assalto, la coppia attaccante che è quella che per te ti ha illuminato e ti ha commosso. Oh ragazzi, io ho 25 anni e quindi non è che ne posso ricordare tanti, io però me ne ricordo una che è infallibile, Shevchenko Inzaghi. Shevchenko dell'Est e alta tensione. Alta tensione, Pippo Inzaghi davanti alla porta non ne sbagliava una. Io mi ricordo col Bayern un liscio su un passaggio, mi sembra di Serginho, raso terra, diventato un assist per un colpo di testa che ha fregato Kahn. E dall'altra parte c'era Shevchenko, il re dell'Est, che era una cosa incredibile. Ma tu li vedevi in coppia? Cioè io li vedevo anche come una coppia, perché Shevchenko agiva fuori dall'area, mentre Inzaghi era un'area, per cui insieme si completavano, mettevano paura a tutte le difese in tutte le zone. Ma certo, però storicamente diciamo la coppia è il fantasista e poi la prima punta. Lì abbiamo una prima e una seconda punta. Metterci cacà e io ci metto anche cacà. Adesso ci pensiamo. Senti, secondo te Klose e Gomez sono più o meno forti di Al-Sharawi e Balotelli? Guarda, secondo me, noi ci ricordiamo Gomez all'Europeo quest'anno, l'è riuscito a marcare Leonardo Bonucci, per cui non mi sembra niente insignificante, tu dici. Vabbè, però parte un po' così. Comunque, se tu provi a contare tutti i grandi punteri del Bayern Monaco negli ultimi 5 anni, Toni, Olic, Klose, Gomez, fanno tutti i gol. Secondo me se ci metti anche Vukušić del Pescara fa gol anche lui. Però certo. Io ho la strana sensazione che non ci sia la coppia. Cioè in questo momento non c'è una coppia. Io ribadisco, Pulici e Graziani non li ho mai immaginati separati. Ma perché Pulici e Graziani è la classica coppia, diciamo, da un certo punto di vista. La sbarco? No, quasi no. Fantasista e punta, perché Graziani era la punta e Pulici era un pochettino quello che lo aiutava, ecco, quindi vabbè. Andrea, ciao Alessio, ciao Andrea, sei ciao. Tu? Ci sei? Sì, sono in linea. Sì. Dai, dici. Sono di Senigallia, tifoso del Cagliari, sì. La mia coppia che suggerisco è Riva Boninsegna. Riva Boninsegna, bravo. Su questo. Questa è un'altra, però anche lì oggettivamente, Boninsegna c'è sempre stato quando c'era Riva, però era Riva poi dopo che... Era Riva. Rombo di Tuomo e Bonimba. Esatto, che hanno contribuito allo scudetto del Cagliari del 70, io avevo 5 anni. Sì, però Bonimba ha contribuito a un sacco di scudetti a tutti, voglio dire, Bonimba. E nel Cagliari solo uno, sì, mi ricordo, sì, io non sono un esperto, però è stato a Cagliari per poco tempo. Ricordiamo Riva che ha rifiutato di passare alla Juventus, tra l'altro. Riva ha rifiutato di passare alla Juventus, anche lui poi è stato condannato un pochino da diversi infortuni che ha avuto nella carriera. Certo. Gravi, tra l'altro. Come, scusa? Gravi infortuni, perché si era rotto la tibia, ricordiamo. È stato colpito gravemente, sì. Però io ritengo Riva Boninsegna negli anni, poi ho seguito il calcio un po' con passione maggiore, a periodi un po' meno, e di coppie di bomber come Riva, io sinceramente a lungo andare ho visto che forse il calcio è cambiato, ma animali d'aria di quel tipo ne ho poi seguiti, ho visti poco, forse Pulici. Beh, però lui era più che altro anche una forza, nel senso che quando poi se beccava la porta difficilmente riusciva a fermare quel pallone, insomma. Comunque grazie per il tuo contributo. Sono le 17:46, andiamo col traffico e ritorniamo da voi. Dai e vai, non è solo calcio. Però è incredibile come cosa, vero? 60.000 persone che ti guardano, applaudono, gridano il tuo nome. Fa paura. Tu avevi paura? Sì. Ma quando mai? Paura che potesse finire. Vincenzo, pronto? Buongiorno, anzi, buonasera. Io chiamo da Napoli. E piove? Volevo... No, però siamo quasi uggioso per la pioggia. Un po' uggioso, sì. Via. Dai, vabbè. Sì, stamattina bellissima, ma adesso si sta lasciando il tempo. Ecco, vabbè. Purtroppo. Allora, dacci la tua coppia. Più che una coppia vorrei ricordare un trio, il trio delle meraviglie, vabbè. La magica, chi se la ricorda? Il trittico. No? La magica Maradona Giordano Careca. Ah. Storia del Napoli. Sì. Ecco, io mi fermerei su Maradona Careca, ecco. Sì, però c'era anche Giordano, però io la ricordo tutte e tre, tu non riesci a scinderli tutte e tre, insomma. Sì, magica, perché sui titoli io avevo 14 anni quando loro giocavano insieme, mi ricordo i titoli, i titoloni, la magica continua a segnare, continua a fare meraviglie e cose. Perciò li metto sempre tutti e tre insieme. Ti ringrazio, grazie, ciao. Andiamo veloci, che arrivano sia gli sms con Gullit e Van Basten. Brad Pitt e Angelina Jolie. Brad Pitt e Angelina Jolie, sì, diciamo, direi, come coppia a me non dispiace. Direi Brad Pitt come punta e Angelina Jolie come fantasista, così a occhio, ecco, me li vedrei meglio. Sì, adesso non vorrei... No, cioè più ecco. Che dei... sì. Vabbè. Ecco, poi Zola e Asprilia. Zola, sì, beh, Tino Asprilia, ricordiamo, ha detto Anaconda. Posso dire che mi sono proprio dimenticato di questo attacco. Tino Asprilia, chi non lo dimentica? A parte i fratelli Abbagnale, che furono un'esperienza di dimenticare, stavolta da Lugano. No? Lugano. Niente, i fratelli Abbagnale, era una battuta questa, sì, però certo. Non la diciamo tutta, perché ci fa troppo ridere, non potremo andare avanti e parlare direttamente con Filippo. Pronto, Filippo? Sì, pronto, buonasera, ciao. Ciao, Filippo. Ciao. Io avevo detto Diaz e Serena. Diaz e Aldo Serena? Aldo Serena, certo. E Ramon Diaz. Sì. Ramon Diaz, però poi ho sentito che le seconde punte non vanno bene, quindi no, va benissimo. Direi Matheus, che va benissimo comunque. Il problema è che Diaz e Serena. No, va bene, sei convinto di questo? Cioè, sì. Diaz e Serena hai detto come coppia? Questa è la tua coppia... Sì. Cioè, vabbè, ognuno ha i suoi ricordi, cioè, voglio dire. No, diciamo più un ricordo che un'analisi oggettiva del dato calcistico, mi sembra. Sì. Un'analisi oggettiva, hanno fatto un campionato dove hanno dato un record sotto tutti i punti di vista, perché hanno vinto lo scudetto quell'anno. Hai detto giusto, hanno fatto un campionato. questo hanno fatto gol con tutte le maglie, in tutte le squadre. Però vedi che non è già più coppia a quel punto, hai capito, no? Cioè... Questo è vero. Capito. È vero. Comunque ti vogliamo bene, Filippo. Ciao, grazie. Abbraccio. Sei sotto la pioggia? No, a Rimini non piove. Vabbè, allora, c'è sole? Neanche, no. No, cominciamo a preoccuparci, se no. Ciao. Ciao. Questo era Filippo. Era Filippo. Da Rimini. Che ci ha salutato. Mi state dimenticando una coppia scandinava, di tutto rispetto. Laudrup e Elkjær Larsson. Negli anni 90, Verona, quella di Bagnoli. Il Verona di Bagnoli, sì, è vero, vero, vero. No, vabbè, allora torniamo invece a dei punti cardine di questa trasmissione, no? Che voi fate fin cioè, troppo finta di, sì, di dimenticare. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Vabbè, ci sono cioè, i punti cardine. Certo. Platini Boniek, quindi vedi copia, che cerchi subito di cambiare discorso. Vialli Mancini persino. No, scusa, abbiamo due voti per Vialli Mancini, vorrei sottolineare. Non c'è la gara. Sta no, buona. C'è la gara, Vialli Mancini, sì. Vialli Mancini. Posso dirti che questo qua che è arrivato come ultimo, non conto, cioè, no, Vialli conte. Mancini Lombardo, cioè capito? Cioè, stiamo parlando di... No, Lombardo di, era di quello che arava la fascia per sì, fare le righe. Da noi quindi... faceva anche gol ogni esatto. tanto. Però stavamo dicendo qualcosa di importante. Esatto, Platini Boniek. No, c'era quella musichetta. Vabbè, la facciamo. Isola è dura, effettivamente, caro. Direi il momento clou della domenica. Sì, cioè, già sì. Qui a Milano le nuvole si stanno diradando, sì, qualche raggio di sole. Sì. Cioè, adesso sì. Cioè, arriva il sole. Sì, perché sì. Abbiamo annunciato Dammi solo un minuto. Sì, ecco, la nostra rubrica, sì, la rubrica numero uno della radiofonia italiana. Sta arrivando a Milano? Sì, il sole. Sì. Ah, vedi qualche quindi quelle pastiglie non erano per l'alito quelle che hai mangiato prima. No, adesso no, capito, va bene. No. Cos'è Dammi solo un minuto? Dammi solo un minuto. È il nostro orticello in cui diamo la possibilità ai nostri ascoltatori. Voglio dirti una cosa, Luca sì, Cancellara. Sì. Dammi solo un minuto, sì. Dice la parola stessa. Non puoi presentarlo in due minuti, hai capito? Infatti, un minuto in presentare. Un minuto ogni ascoltatore appassionato di sport particolari, bike polo, beach volley, ha la possibilità di registrare anche col proprio cellulare un contributo su un evento del weekend. Ce lo manda a daievai@radio24.it e noi lo mettiamo in onda, perché ci sembra importante... testimoniare tutto testimoniare. Quello che non è calcio. Cos'è che ti sembra importante? Testimoniare. No, era interessante questo aspetto. No, perché la realtà è che non riusciamo a coprire tutti gli sport, come abbiamo visto oggi. Abbiamo parlato di tiravolo, abbiamo parlato di staffetta 4x400, abbiamo parlato di biglietti ai politici, che non è una disciplina sportiva, però comunque abbiamo parlato di molte cose. Dai, vai, non riusciamo a coprire tutte le discipline sportive. Chiediamo il contributo vostro, ascoltatori e ascoltatrici. Fateci un servizio in meno di un minuto, lo registrate e ce lo mandate. Voi sarete i nostri occhi. E la vostra bocca? Bocca voi... viene male, esatto. Voi sarete la rifaccio. Allora, voi sarete i vostri occhi e la, e la vostra voce sarà la nostra voce. No, la vostra voce sarà la nostra voce. Voce. Esatto. No. Dobbiamo preparare ancora qualche slogan qua e là, ma poi ci stiamo dentro. Questa settimana cosa abbiamo? Qualcosa sul dressage? No? No, non lo so, devi dirci tu. Io faccio domanda. Cosa abbiamo questa settimana? Questa settimana Alessandro Lucca ci fa il suo solito resoconto della settimana di football americano. Presentalo bene, cioè non si può dire così. Dammi solo un minuto. Facciamo. Dammi solo un minuto, un solo fiorifiato, un attimo ancora. Di fronte a una splendida cornice di pubblico si è disputata ieri la prima giornata della IFL, la Serie 1 del football americano. Sì, ad aprire la corsa al titolo 2013 sono i Rhinos Milano, che hanno ospitato i campioni in carica Panthers Parma. Prendi fiato. Quest'ultimi vincitori all'ultimo secondo per 13-12. Nella seconda partita del sabato i padroni di casa Warriors Bologna sconfiggono i Marines Lazio 29-13 dopo un primo tempo equilibrato chiuso sul 14-13. Solo il primo tempo. Oggi si disputano altri due incontri della massima serie. Hola. Giants Bolzano, Siemens Milano e Hawks Reggio Emilia Dolphins Ancona. Sotto la pioggia. Nella giornata di ieri si sono disputate anche le partite di Serie 2. Demus Cernusco sul Naviglio, Giaguari Torino 13-17, Muli Trieste, Mastini Verona 0-25 e Elefanti Catania, Sharks Palermo 41-22. Anche questo. Per il campionato 9 invece Pirates Savona, Predatori Golfo del Tiguglio 12-0. Knights Persicetto Aquile Ferrara 7-20 e Wolfpack La Spezia Bills Cavaliere Maggiore 0-47. Chiudiamo con la notizia del giorno: il kicker italiano Giorgio Tavecchio ha firmato con i Green Bay Packers. Arrivano tutti i migliori auguri da parte degli appassionati italiani della palla lunga un piede. Da Torino è tutto per Dai e Vai Radio 24, Alessandro Lucca. Ecco, volevo soltanto dire, cari ascoltatori, se potreste avere una voce meno da hostess, dedicazione, cioè, capito? Ma non è che puoi penalizzarlo se c'ha le adenoidi, cioè, non hanno operato da bambino, dai! L'approccio è quello da hostess, hai capito? No, così me li spaventi comunque, cioè noi siamo aperti a qualsiasi... No, a noi va bene tutte le hostess, gli hostess, sì. Però il concetto è quello di riuscire, cioè, avere, no, le uscite di sicurezza sono quelle lì, mettete questo, un po' più di allegria, scenderanno dall'alto. molto. Il, com'era la palla dal piede lungo? Chi? Com'è che ha detto? La palla del piede lungo? Così ha detto. Giorgio Tavecchio. No, ha detto a tutti gli appassionati della palla del piede lungo. Non l'avete sentito? La faccio risentire? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Guarda, c'è il podcast. C'è il podcast. Sicuri che non volete risentire? No, guarda, c'è il podcast. Sul sito di Radio 24, www.radio24.it, andate nella pagina trasmissione, ci sarà il podcast e potete risentirlo. A tutti gli appassionati della palla del piede lungo. Ci fidiamo. No, no, no, non me l'avete sentito. Guarda che non è male. No, no, no, no, c'è il podcast, Sergio, c'è il podcast. Sentite il podcast. Lo mando? No. www.radio24.it, il sito, andate sulla pagina, c'è il podcast, potete sentire la palla dal piede lungo. Domanda retorica: come faccio io a spedire il minuto di sport? Lo del mio sport, tra l'altro. Del tuo sport preferito? Della mia gara. Cioè, io, per esempio, stasera gioco a scopallasso, no? Sì, non è sport. No, scusa se ti deludo, ma non è sport. Ma chi ti ha chiesto qualcosa? No, niente, vai tranquillo. Metti che, vabbè, gioco a razza. C'è sport perché c'è campionato italiano, va bene, ok? Quindi, come faccio? Lo registri con il cellulare e ce lo mandi via mail. Dove? Dai e vai, @radio24.it. Perfetto, allora Stromberg e Caniggia, ce lo siamo dimenticati. Stromberg e Caniggia, stiamo parlando dell'Atalanta in questo caso. E stiamo parlando di un'altra coppia, che però, va bene, già. Di Natale Sanchez. L'Udinese di 2 anni fa, Sanchez che poi è andato al Barcellona, non gioca, infatti se ne torna in Italia. Aguilera Casagrande? Patto Aguilera e Casagrande. Sì. Ah, quando è andato al Toro, ok. Sì. Casagrande è una Toro coppia indimenticabile quella, sì, lì. Quella proprio che secondo me se la gioca con Diaz e Serena, Casagrande e Aguilera. Guarda, sono veramente commosso di tutto questo. Comunque ricordatevi ancora l'SMS 349-238-6666 qua direttamente a Dai Vai, non è solo calcio, però è Radio 24, ma adesso arriva il GR. Dai e vai, non è solo calcio. E se avesse sbagliato? Devi fidarti dei tuoi compagni, in ogni caso, altrimenti tutto è perduto. E già la via, amaro via, romale che io me ave. Vachta lovela pia, budra vintra me pia, sero mave. Sai che c'è un elemento secondo me importante in questa storia delle coppie che stiamo cercando in qualche modo di ricostruire, e che poi in realtà le coppie sono sempre dei ricordi, come le canzoni, no? Si legano a dei ricordi, a dei momenti. In realtà, non so se noti, non ci sono coppie attuali. Nessuno dice, guarda, secondo me anche la ragazza di 25 anni ha guardato indietro, no? Lo chiamerei l'effetto febbre a 90, cioè gli eventi della propria vita legati agli eventi calcistici. Esatto. Che tristezza. No, poi c'è gente che invece è entusiasta di queste cose, anche perché poi pensano, tutte quelle squadre che per esempio hanno fatto degli eventi importanti, la vittoria sulla Juventus, per esempio, no? Cioè, come l'evento tutte, determinante della propria vita, no? Insomma, questo passaggio. No, però Sivori, Charles e Boniperti, qui siamo già in un trittico, anche se Sivori che era autonomo quanto Charles, insomma. Esatto. No, sì. Questi segnavano comunque con stiamo parlando di anni 60 più o meno. Esatto, mi verrebbe da dire. Sivori, Charles, Boniperti, anni 60. Ci suggeriscono ovviamente Ferrara Montero come coppia, devo dire. Però che quella è una coppia di fatto, è un altro discorso. Quindi sì, era di difesa, in difesa. Esatto. Quindi, e poi altri nomi, mi pare che adesso per il momento ne stanno arrivando. Sì, Baggio e Hübner ci sottolineano. Brescia, questo è Marco da Pavia che ci ricorda una coppia del Brescia storico. Comunque ne abbiamo già viste tante, ricordiamo Prati, Rivera, Vera, Anastasi Bette, Gariva, Boninsegna, sulla nostra pagina Facebook, Sceva e Inzaghi, Diaz e Serena. Vabbè, io sono ancora sotto shock per quanto riguarda Diaz e Serena. Sì, vabbè, quello non è che devi segnalarlo. No, non è 349-238-6666. Nicola, pronto? Pronto, buongiorno, posso intervenire? E come no, ti chiamiamo, dai, dici tutto, Nicola. Allora, la tua coppia? La mia coppia, Vialli-Mancini, perché secondo me le squadre in seconda fascia meritano di più, perché quando giocavano nella Sampdoria loro hanno dato lustro, e in più erano due persone che avevano il senso della posizione, tant'è, e della strategia, tant'è che sono diventati due allenatori anche con discreto successo, direi. Sì. Quindi secondo me meritano. Si conoscevano troppo bene loro. In che senso? No, nel senso che uno metteva il pallone dove l'altro arrivava, sì, e l'altro andava dove sapeva che gli sarebbe arrivato il pallone. Sì, e tutte e due litigano tutte le volte per spiegare che in realtà Vialli dice che gli arrivavano dei carciofi in mezzo all'area, lui li trasformava in gol, e l'altro diceva non potevi che buttarla dentro anche se tu eri bendato. Insomma, questo è uno dei giochi che loro si portano avanti da un po'. Vabbè, comunque sicuramente quella è, sì, è una coppia vera, no? Cioè Vialli e Mancini, non necessariamente. Poi magari individualmente hanno fatto poi delle cose, però sicuramente poi Vialli è riuscito finalmente a vincere anche la Coppa dei Campioni, sì, tra le altre cose, no? Cosa non riusciva, sì, perché... a fare con la Sampdoria, però effettivamente loro hanno fatto delle grandi cose insieme. Esatto. Eh? Non purtroppo in nazionale, perché sono stati convocati in nazionale, però non hanno... Mancini niente nazionale, no, poca roba. No, è stato convocato, ha giocato, sì, poco, tanto è vero che proprio Vicini, Azeglio Vicini, per quanto riguarda i mondiali dell'80, del 90 in Italia, si è pentito, dato l'unico l'unico rincrescimento che ho è il fatto di non essere riuscito a far giocare a sufficienza Mancini. Facile dirlo dopo. Grazie, grazie. Ciao, ciao. Pronto, Silvio? Silvio? Sì, pronto, ciao. Buongiorno. Cremona, giusto? Piove lì a Cremona? C'era sì, lì. Diluvia, è una cosa indecente. Vabbè, ok. No, no, volevamo tranquillizzarci perché ci dava fastidio se non pioveva anche lì a Cremona. Dici, Silvio, no, no, allora. No, è tornata veramente... Allora, la mia coppia, premetto che io sono interista, infatti mi dispiace un po' dirlo, comunque la mia coppia è sicuramente Platini Boniek, perché sono stati due calciatori, una coppia che assolutamente era devastante, cioè su un altro pianeta. Sì. Poi purtroppo nello stesso periodo all'Inter avevamo Beccalossi Rummenigge, se non vado proprio, se non erro, che non era malaccio, però sicuramente non hanno avuto gli stessi risultati che hanno conseguito, sì, in Italia. È anche vero che Platini e Boniek sono arrivati in una squadra dove c'erano, se non sbaglio, 8 nazionali che avevano appena vinto la Coppa del Mondo in quel momento. Campionati, sì, mondiali, sì, assolutamente. E quindi, cioè, insomma, è un po' facile giocare lì. È la prima coppia che vediamo, sì, Platini e Boniek, se non sbaglio, che non contenga al suo interno una prima punta vera, perché, esatto, Boniek era un centrocampista e Platini o una seconda punta, un fantasista, diciamo. Buttava sulla sinistra però Boniek, era buttava, sì, però non erano, nessuno dei due era una vera e propria punta. Comunque in centro c'era Platini, non poteva avvicinarsi troppo per Boniek in questo caso. Comunque oggettivamente intorno, più che altro quello che c'era intorno a loro due, che era veramente incredibile. Infatti rimpiangiamo noi bianconeri la nostra sconfitta ad Atene ancora adesso, nonostante tu sia interista, tra le altre cose. Dato via il nostro Silvio interista. Io sono interista, sì, però sì. Mi permetterei scusatemi di segnalare anche Falcao e Toninho Cerezo. No, mi spiace, non te lo permettiamo. No, vabbè, non te lo permettiamo. Adesso questo è doppio voto, non vale, è falso, vale, va bene, bene. Questo no, me no, la annulliamo questo, ciao, ciao. Grazie. Certo, Falcao e Toninho Cerezo andiamo un po' indietro rispetto agli attaccanti. Andrea, Roma. Pronto. Piove lì? Si sta avvicinando ad alcune zone, io mi sono fatto adesso tutto il raccordo, per cui vi posso benissimo dire che alcune zone piove, altre si sta avvicinando. Vabbè, vabbè, vabbè. Tutto il raccordo, proprio tutto? Praticamente gran fetta del raccordo, vedi, quasi, cioè, quasi 50 km. È sempre così, cioè uno dice tutto, poi in realtà non è mai tutto, perché sono poche persone al mondo che possono dire di aver fatto tutto il raccordo in una volta. Capito, ma fatevelo voi di domenica pomeriggio a 5 e mezzo il raccordo. Vabbè, insomma, scusa, d'altra parte perché bisogna fare? vi chiamavo a mezzanotte. Esatto, allora dice Andrea. Va bene, io chiamo da Roma, quindi avrei più di una coppia. Innanzitutto vi faccio i complimenti, perché è un po' come sfogliare gli album della Panini, no? Esatto. E quindi è molto carina la trasmissione, molto bella l'idea, e vi faccio i complimenti. La mia coppia adesso basta è... con le offese, perché non possiamo andare avanti così, eh? Io volevo cominciare dopo. La mia coppia è Renzo Carlaschelli e Giorgio Chinaglia, sottolineando soprattutto l'utilità di Renzo Carlaschelli, che secondo me nella sua carriera... Stando un po' nella Lazio, squadra che in quegli anni attraversò, tolto il campionato dello Scudetto, sì, poi una serie di eventi a partire dalle morti di Rececconi, Maestrelli, certo, quant'altro, il calcio scommesse, diciamo che non ha fatto la carriera che doveva fare, perché Renzo Carlaschelli è quello che oggi viene definito dai telecronisti moderni, diciamo, l'apriscatole delle difese, era quello che faceva gli spazi. ed era anche coperto dall'ombra di Giorgio Negaglia. Beh, sì, se no avrebbe svettato Renzo Carlaschelli. Stiamo parlando fine anni 60, inizio anni 70, per dare un'idea. Diciamo anche fine anni 70, perché poi Renzo Carlaschelli rimase nella Lazio in Serie B, dando un pochino il suo un paio di anni ancora, per cui comunque fece... vi saluto dicendo comunque permettetemi anche questo, non da sottolineare e da dimenticare, anche sempre in veste bianca-azzurra, la coppia Giuseppe Signori, Karl-Heinz Riedel. Beh certo, Signori Riedel, chi non la dimentica? Come possiamo ricordare quella? E poi ricordiamo la Carlaschelli che terminò la carriera a Pavia, come tutti sappiamo, anche Sergio ricorda. Certo, no, la cosa che mi ricordo più che altro di quella Lazio era più che altro che loro dicevano: quando andiamo in campo la domenica finalmente ci riposiamo, perché siamo talmente tante di le botte mentre facevano gli allenamenti che era una cosa abbastanza indecente. Grazie Andrea, ciao Lorenzo. Sì, buonasera a tutti. Ciao. San Benedetto nevica. Dai, dici. No, purtroppo no, è tempo leggermente nuvoloso, si sta benissimo, 15 gradi, mi dispiace per voi. Vabbè, ci contavamo, ci deludi. Vabbè, dici. Allora, io da juventino purtroppo faccio il tifo per Pulici e Graziani, che ci hanno fatto piangere più di una volta. Vabbè, ciao, via, non è che possiamo prendere tutti, qua, no, non è che possiamo stare... No, è vero. Storica per il periodo, perché poi il Toro in fondo da quella volta lì non hanno vinto più un cazzo niente. Ecco, mi piace quando sei tecnico nelle tue affermazioni. No, e poi ricordiamo quel campionato 51 a 50. E dietro il vuoto, il 30 gradi. Campionato con Radice, allenatore del Torino, se non ricordo esatto, male. Esatto. Va bene, grazie Lorenzo. Nel frattempo arriva ancora il traffico qui, Radio 24. Dai e vai. Strade in diretta. Buonasera, sulla Firenze-Pisa-Livorno ci sono code per una frana tra Montelupo Fiorentino e Genestra Fiorentina verso Firenze. Sul tratto urbano della 4 alle porte di Milano si resta in coda per un veicolo fermo in avaria in uscita allo svincolo di Cormano verso Brescia. Primi rientri del fine settimana attorno alle città caratterizzati dal maltempo sulle regioni settentrionali e allerta anche al centro-sud per la giornata di domani per pioggia intensa e vento forte. Nelle prossime ore inoltre è prevista neve anche a quote basse al nord, specie in Emilia. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Dai e vai. Non è solo calcio. Se sta passando a serie, io também. Come è il tuo nome? Lindo nome. Teu nome è Roberto. Ai, todo mundo te chama de Bob. Eu tenho amigo que também se chama Bob. Ele faz música. Siamo subito andati sui ricordi, siamo andati a calare, mentre invece siamo partiti a Sharawi, Balotelli e poi dopo invece ci troviamo a parlare di ricordi e di Pulici e Graziani della nostra gioventù, della tua gioventù, insomma, di fatto loro hanno detto siamo la coppia più bella del mondo, è vero, ma in questo momento, ma non lo so, noi abbiamo stilato le coppie che possono in qualche modo competere con loro, ma insomma è un po' strano. Secondo me bisognerebbe chiedere a un esperto, tra le altre cose. Ci vorrebbe gente che ne mastica. Ne approfittiamo a mani basse, perché abbiamo casualmente al telefono Gianni Mura. Pronto Gianni? Sì, pronto, che combinazione. Hai visto? Grazie per averci telefonato. Ecco. Siccome il dibattito ha appassionato e ci ha fatto saltare un po' tutta la scaletta, nel senso che appunto la dichiarazione di Al-Sharawi che sono la coppia più bella del mondo in questo momento, lui e Balotelli, non so quanto possa in qualche modo essere condivisa o no. Tu, secondo te, è condivisibile? Così, Ma, è un po' a freddo. Facciamo questo. La somma degli anni che hanno, in rapporto agli anni che hanno, è condivisibile in assoluto? Non credo ancora. No. Quindi in prospettiva più che nella realtà? In prospettiva sì, cioè... Siamo a pochi mesi di distanza da un mondiale che è importante per loro e bisogna anche vedere, per ora sembrano intendersi, c'è un dibattito in seno ai tifosi milanisti, ma non è che con Balotelli rende meno Sharawi direi che le dichiarazioni degli interessati sono rassicuranti su questo punto, anche se noto una certa tendenza nel Milan ad appoggiare molto il gioco su Balotelli, un po' come si faceva con Ibrahimovic, e a trascurare un pochino le aperture sulla sinistra, ma questo non vuol dire niente. Balotelli in un periodo di grande forma e bisogna sfruttarlo, fisica e psicologica, addirittura sembra divertirsi, quindi... Beh, comunque dice, obiettivamente è una coppia forte così sulla è carta. Una coppia forte, certo. Questo oggettivamente è molto forte in questo caso. Sì. Perché no. Noi abbiamo visto anche a livello internazionale, in realtà non è che ci siano delle grandi, esclusa l'Argentina che ha Messi, Agüero, Higuain, Lavezzi, però anche il Brasile c'ha Neymar, Oscar, la Francia c'ha Benzema, Giroud, la Germania Podolski, Klose, ecco, anche i Rooney, Welbeck, tutto sommato se la giocano. No, ma io direi che Bruno Welbeck è decisamente inferiore. Cavani Suarez nell'Uruguay. Cavani Suarez è già meglio, per esempio. Pedro Villa? Torres non lo prendiamo. Pedro non lo considero proprio. Villa, allora, Villa e Torres. Torres dipende da che Torres è. Una volta il Nino sembrava fare chissà che cosa. Sì. No, direi no. Poi Klose, semmai ci metterei Müller, non tanto Podolski. Quindi loro sono, diciamolo chiaramente, loro sono forti, i più forti in questo momento, o tra i più forti in questo momento per l'esclusione, cioè si va ad esclusione di tutti gli altri e le altre coppie, insomma, in questo caso. Però è interessante, questa coppia qua è interessante perché tra l'altro usciva fuori questo aspetto, che la nostalgia delle coppie proprio, le coppie gol, no? Ovviamente è uscito fuori la coppia per eccellenza, nonostante sono uscite fuori due coppie, vere coppie, no? E quando si parla di coppie si parla di persone, di giocatori che senza l'altro probabilmente avrebbero fatto un'altra carriera, avrebbero fatto altre cose. Pulisic e Graziani, assolutamente una, al vertice, ecco, e l'altra, e poi dopo Vialli e Mancini. Sì, Pulisic e Graziani è come coppia d'attaccanti è la più pura, perché Mancini era a volte attaccante, a volte trequartista, però era molto forte anche questo, certo. Sì, poi sono usciti. Io direi più Pulisic e Graziani, anche perché giocavano in una squadra oggettivamente meno forte, anche se ha vinto uno scudetto con i loro gol. Però è vero che c'era Claudio Sala, ma il resto era abbastanza normale, non era uno squadrone. Poi c'è uscita fuori l'anomalia Platini-Boniek, ma non so se definire la coppia, perché mi sa che la vedo un po' dura come coppia. Dunque, a Scopa erano una buona coppia, ecco. Anche se ti hanno battuto a Scopa. Sì, mi hanno battuto ma facendo i segni. Ma che brutta cosa, che brutta cosa questa. Infatti ho smesso di giocare per questo, ecco, infatti. Ecco, cioè strizzare l'occhio non valeva più neanche all'oratorio. Che vergogna. Ma poi, però coppia sicuramente di grandissima funzionalità, perché Platini era un centrocampista che segnava più di un centravanti. Forse si potrebbero ricordare a questo punto anche Maradona Careca, però. Beh, sì, esatto. Infatti sono stati ricordati come Prati Rivera, come Anastasi Bettega, esatto. Come Riva Boninsegna, Shevchenko Inzaghi. Shevchenko Inzaghi, bella coppia anche questa, sì. Bella. Però ecco, Shevchenko e Inzaghi sono trovati lì, loro hanno fatto anche delle cose per cavoli loro, non so come dire. Sì, ma questa è una caratteristica su cui i tifosi non riflettono mai. I calciatori in una squadra si trovano, non si scelgono. Cioè tu puoi trovarti con uno che detesti, ma veramente uno che ti ha detto di tutto, ti ha picchiato quando giocavate in una squadra diversa, e te lo trovi lì e ci devi andare d'accordo. Esatto. E questo dipende dall'intelligenza o dal carattere. Cioè, ci si sceglieva solo per i più vecchi, quando si faceva bim bum bam all'oratorio, uno io, uno tu, uno io, uno tu. Certo. Anche tu? Io se portavo il pallone giocavo. Se no niente, insomma. Guarda, ci accomuna anche un po' questo, devo dire. E ci sarà un motivo da qualche parte. Però la cosa poi interessante, adesso potrei parlare con te per delle ore da questo punto di vista, ma ne approfittiamo proprio di questi ricordi, no? Perché in realtà noi vorremmo invece parlare, vorremmo segnalare ai nostri ascoltatori, ovviamente non gioco più, me ne vado. E questo perché tu portavi via il pallone, ovviamente, certi sì. versi, a un certo punto non ti facevano giocare. Gregari e campioni, coppe e bidoni, questo è il libro del Saggiatore, ed è l'ultima, l'ultima mi pare, no? Sì, l'ultima. L'ultima creazione, l'ultimo libro di Gianni Mura, raccolta di tutti i tuoi articoli, di tantissimi tuoi articoli, non so se sono tutti, saranno tutti? No, ma non è neanche la centesima parte. Esatto, però devo ho dire... Ho scritto molto più di Balzac. Esatto, però devo dire che mi sono accorto, man mano che li leggevo, a molti di questi... ovviamente una parte assolutamente insignificante rispetto alla quantità di articoli che sono dentro, li ho visti, li ho vissuti in diretta quasi, no? In alcuni casi, quindi questo mi riempie anche abbastanza di gioia per certi versi. Beh, quando parli di, soprattutto quando parli di Ondina Valla, lui c'era, era sì, sulle era tribune. In tribuna, no, beh, lì proprio lì era un momento così sì, emozionante per me. Anche ai tempi di Colò lo hanno visto. Esatto, esatto. No, la cosa che invece è interessante e che mi preme dire e che molto spesso nelle redazioni sportive, in particolare quelle radiofoniche, accade normalmente, non so se te l'hanno mai raccontato, caro Gianni, è che a un certo punto su degli argomenti, quando non si sa che pesci prende, dice ma Gianni Mura che cosa ha detto? Che no, Gianni davvero, Mura che no, cosa ha scritto? E allora andavamo a cercare gli articoli. No, te lo confesso, tu sai che sono un po' di anni che seguo questo e ho avuto varie occasioni di partecipare a varie redazioni. Quindi la cosa interessante però a questo punto è la tua divisione, Gregari, campioni, coppe e bidoni. La passione che ci attanaglia ovviamente è quella per i bidoni. Beh, io ho una passione anche non proprio per i bidoni, che il bidone è uno che ha sbagliato mestiere, è come se cioè, tu trovassi un giornalista, oddio, ce ne saranno che scrive cuore col Q, ma ho una certa simpatia per quelli che arrivano a vincere e non vincono, però ce l'ha messa tutta, insomma, non... sono un giornalista sportivo controcorrente, io a Gap ero molto più triste perché aveva perso Bitossi che non perché aveva vinto Basso, per esempio. Ma ho questa mania a volte di vedere lo sport con occhi vagamente etici e quindi prendo delle fregature pazzesche. Vabbè, bidoni, figurati, bidoni ce ne sono stati tantissimi, anche strapagati. Campioni ce ne sono stati tanti, non tutti secondo me erano così campioni, ma insomma, sai, occupandoti di tanti sport, non tutti perché di motori non capisco niente, ti capita di incontrarne, insomma. Sport che tu hai seguito? Allora, calcio, ovviamente. Fondamentalmente calcio e ciclismo, ma ho seguito anche dei mondiali di pallavolo nel 70, quando l'Italia perdeva anche dal Belgio. Eventi tipo Olimpiadi, queste cose, sì, no? Olimpiadi cioè... invernali, Olimpiadi estive, ho cominciato nel 76 a Montreal, quindi quanto certo. regna, poi certo, Mosca, no? Erano tutte le Olimpiadi boicottate, poi Mosca, poi Los Angeles. Ecco, qua ci sono articoli dal 1965 praticamente a oggi, giusto? Sì, sì, l'ultimo in ordine cronologico è un'intervista a Sandro Mazzola per i suoi 70 anni, quindi è di novembre scorso. Beh, io mi ricordo quando lui ha iniziato, anche lì, quegli anni. Cioè... Sì, no, certo. Dicevo, no, scusa Gianni, però la cosa forse interessante qui è parlare della scrittura dello sport, no? Forse in questo sì, caso qua. Scrivere di sport, in questo caso. Sì, scrivere di sport... Il linguaggio, l'uso dei termini, insomma, tu dov'è che intanto hai imparato? L'avrei raccontato centinaia di volte. No, immagino. Io ho cercato di imparare proprio agli inizi, quando ero da poco in Gazzetta e anziché andare all'università andavo in archivio la mattina e rileggevo, a parte Brera che leggevo sul giorno, quindi ero un contemporaneo, ma cercavo di leggere i grandi del passato, anche per capire il linguaggio, eccetera. Poi molto ti fai sul campo, in sostanza. Io non ho molti consigli, io cerco di, se posso proprio, di evitare i luoghi comuni, la retorica e le terminologie belliche, tipo cannonata, missile, terra-aria, la battaglia, queste cose sì, qua. Sì, la battaglia, queste cose qua. Cioè cerco di mantenere un linguaggio poco bellico. E poi cerco di, per quanto posso naturalmente, di trovare anche qualche cosa di umano, non solo di divistico, cioè altrimenti saremmo semplicemente dei trombettieri di fronte a un campione. Cerco di vedere il lato umano in una vittoria, in una sconfitta. In un... Dai e vai, non è solo calcio. Però è incredibile come cosa, vero? 60.000 persone che ti guardano, applaudono, gridano il tuo nome. Fa paura. Tu avevi paura? Sì. Ma quando mai? Paura che potesse finire. Gianni Mura qui con noi e parliamo Non gioco più, me ne vado. Il libro che è uscito, edito da Saggiatore. Stavamo appunto parlando di linguaggio e scrittura in questo caso, cioè cercare di trovare un lato, un qualche cosa di particolare. Noi ti ringraziamo di aver mai usato, per esempio, attributi. Siamo sicuri? Conferma Mura, mai usato attributi? No, a meno che non fosse un virgolettato di un allenatore. Però di mio non ho mai usato la parola. Che invece sembra che sia l'unica parola che si possa dire per avere un po' di carattere in campo o cose di questo genere, no? Cioè questo atteggiamento. Sì, ma oggi c'è molto il linguaggio sportivo, mentre una volta dovevi ricorrere a delle, un po' come c'erano in Rai le cose da non dire. Quindi anche gli attributi, una volta stavi attento, adesso puoi essere molto più esplicito, insomma. Sì, certo, però si potrebbe anche cambiare il termine, però lo dicono tutti, cioè qualsiasi... Ma infatti a cambiare il termine, per esempio, qui c'è un aneddoto famoso di Valdano. Sì, che dice che quando era nelle giovanili tutti gli allenatori alla vigilia della partita gli chiedevano appunto di tirar fuori gli attributi. E poi è arrivato Menotti che gli ha detto: domani giochi titolare, tira fuori tutti i tuoi sogni. Ecco. Quindi lui si è innamorato di Menotti e ha cominciato a scrivere. Sì. Ha avuto anche un momento di smarrimento in quel momento, perché lui era pronto a tirare fuori gli attributi, con questo gioco un po' così, no? Però l'omologazione è il grande pericolo, no? Mi pare, nel mondo dello sport. Il giornalismo sportivo, sì. Sai, il giornalismo sportivo di una volta, quello dei miti, si basava su corse o partite che pochissimi avevano visto, non c'era la televisione, c'era la radio, c'era Mario Ferretti che cantava Coppi, poi Carosio. Adesso con tutte queste telecamere, una volta l'inviato era sacro, no? Ma io mi ricordo l'inviato era sacro. Adesso l'inviato è su un campo che può essere San Siro come Kiev e c'è una situazione confusa, non si sa se è rigore, autogol, che cos'è, telefona in redazione. Certo. Ah beh, sì. Quindi oppure aspetta che gli arrivi un SMS. Ecco, però questa è la diminuzione dell'inviato. E quindi poi cos'è cambiato? È cambiato che i tempi di lettura, secondo i direttori o gli esperti di mercato, sono sempre più corti, quindi i pezzi sono sempre più corti anche loro. Sono diventati più grossi i titoli e le foto. Sono cambiati i calciatori? I calciatori sono cambiati spaventosamente in peggio, ma non è che siano cattivi, sono altro. Ecco Il calciatore è il tipo di sportivo che si è più hollywoodizzato, se mi passate il termine, anche in base a delle retribuzioni che sono assolutamente fuori da ogni regola di mercato, non dico del mondo, ma... E quindi girano su aerei privati, hanno solo dei privé. Beckham vive in una, se non ha cambiato casa, una casa, vive in una suite parigina da 17.000 euro a notte. Non li vedi, soprattutto sono lontani tutti questi. Non so se per motivi di sicurezza, sono molto lontani dalla gente, dal popolo. Ma quando si riesce poi a incontrare, poi dopo in realtà non c'è la sorpresa, perché poi non è che possono dire delle cose pazzesche. Ma ormai tutti twittano delle banalità tipo il mio gatto è raffreddore, ma chi se ne strafotte se il tuo gatto è raffreddore, oppure adesso è di moda, grazie, Cassano ha chiamato il bambino Lionel, sì. E allora Messi twitta per Cassano, ma telefonatevi, io non capisco, non capisco questo, cioè c'è una banalità, insomma diciamo che il calciatore conta più di una volta il calciatore era uno schiavo del presidente, esatto, del presidente, o fai così o smetti di giocare. Certo. Poi è cominciato il periodo degli allenatori, che prima che arrivasse Mourinho avrebbero dovuto fare tutti un monumento al vecchio Elenio. Adesso ci sono allenatori che guadagnano più dei calciatori e che sono specializzati nel dire delle banalità, perché se hanno qualcosa da dire o lo twittano o lo fanno su Facebook o lo fanno sulla TV della loro squadra, sul sito della loro squadra, eccetera. Ecco, anche perché molto spesso capita che le interviste, soprattutto quelle post partita, siano delle cose particolarmente aspettate, cioè si sa le domande che si fanno e si sa le risposte. Sì, perché non devi rompere le scatole, infatti quando appena uno si permette di fare una domanda che sia vagamente diversa dall'inginocchiamento, ti guardano male, sentono e dico, cioè, come ti permetti, ma non erano questi i patti, dovevi chiedermi, ecco, un'altra cosa. Gianni, scusa, non ti dispiace se noi facciamo un lancio a Ansa della serie Gianni Mure se ne strafotte del gatto di Beckham? No, per stare un po' così, per lanciare un po', alzare un po' il livello della trasmissione. Sì, ma se vuoi alzarlo. Poi non vorrei che, ma anche se Beckham twitta, io non ce l'ho. Quindi. Ah, ecco, qui te frega, scusa. Certo. A totalmente. Questo punto vai alla grande. No, è che così, no, in qualche modo poteva. Una botta di vita. Bisogna attirare l'attenzione in questo mondo hollywoodiano dello sport. No, la cosa ancora più drammatica forse è quello che non si dice, no? Cioè, io penso, l'abbiamo già ribadito anche tra l'altro in questa trasmissione, che i suoni anche usati ormai all'interno di Sky nel segnalare qualsiasi evento sportivo hanno tutto qualcosa di epico, come minimo il gladiatore, cioè quello più non violento è quando metto la musica del gladiatore, e poi dopodiché invece è sempre battaglia, sempre guerra, sempre scontro. E anche il termine, per esempio, far male, cioè quando una squadra gioca bene fa male all'altra squadra, no? Questi tipi di linguaggi, ecco, questo forse fa è un molto bel anche problema. Asfaltare, devo dire. Beh, ma asfaltare è più divertente per certi versi. Sì, è più divertente perché è da cartone animato. Esatto, esatto, insomma. Sì, ma questo fa parte cioè per vendere il polpettone devi metterci più spezie, sì, no? Sì, è vero. Quindi l'aglio no, perché non sta bene, poi va bene, allora metti un po' di peperoncino, di zenzero, fa male, poi leggono anche le azioni, se è per quello. Mm-hmm. Una volta il terzino avanzava e adesso scende, boh, comunque. Va bene. Non importa, sono ragazzi. Grazie Gianni Mura, ovviamente. Buona continuazione. Ciao, grazie a voi. Grazie, ciao, buona ciao. Serata. Buona serata. Non gioco più, me ne vado. Gregario e Campioni, coppe e bidoni del Saggiatore dal 1965 a oggi, sono circa 500 pagine di articoli. Provate a leggerlo. Ci sono termini che non c'entrano niente con lo sport. No, con lo sport c'entrano. Senti, con la comunicazione sportiva, ecco, quello che volevo dire. Gli attenti ascoltatori ci segnalano anche Balistico. Sì. Rammento balistico del telecronista di cui non ricordo il nome, saluti. Poi dopo continuano ancora, sì, le coppie. Sono arrivati, a proposito di Twitter, ne parlava prima Gianni Mura. Luca su Twitter dice Bertani e Gonzalez del perché, Novara. Sai che non abbiamo mai parlato di Twitter, esatto. Dai e vai in rapporto a Twitter, no? Quindi magari se qualcuno volesse Dai e vai, abbiamo anche Twitter per quanto riguarda la nostra trasmissione, Dai e vai _ Radio 24. E ad esempio proprio su Twitter Luca scrive Bertani e Gonzalez, che sono la coppia del Novara di due anni fa, di due stagioni fa, mentre Michele dice nessuno ha ancora detto Andy Cole e Dwight York, i gemelli del gol del Manchester United fine anni 90. E poi Cristiano Baggio e Vialli, vabbè, Baggio e Vialli come coppia in questo caso però della nazionale. Sì. Vabbè. Sicuro? Sì. Ah. No, pensavo anche alla Juve, hanno giocato tutte e due la Juve. Sì, no, ma non mi ricordo se hanno giocato nella stessa stagione alla Juve. Senti, parliamo di cose serie, parliamo di cose serie, perché stasera c'è la partita. È la partita che Bari-Empoli, anzi Empoli-Bari per essere precisi. La partita importante, Serie B, che cioè il posticipo della Serie B. Non ti c'è... vedo un po' così. No, tranquilli. Ti vedo un po' perso, ti no, vedo. Ma tranquilli, figuratevi. Sì. Cioè, io ho una certa esperienza di Serie B, lasciate parlare gente che ne mastica qua di Serie sì, B. Sì. E beh, certo. Noi parliamo però invece con il nostro Nini Piscopo. Pronto? Ciao. Ciao, buonasera. Ciao, ciao Ninni. Ciao, ciao. Tifoso. Comincio subito con un Forza Bari. Bravo, bravo. Ricordiamo tifosi del Bari gemellati con i tifosi della Sampdoria, ricordiamolo. E soprattutto, permettetemi di dirlo, con i Reggini, con i Salernitani, che sono fratelli da una vita e da sempre. Esatto. Senti, allora, dove sei collocato intanto? Adesso siamo a 19 chilometri da Empoli. Ci stavamo muovendo adesso per raggiungere lo stadio. Ecco, vabbè, quanti siete? Saremo una trentina. Trentina, trentina. A che ora siete partiti stamattina? Allora, noi veniamo da una parte dal nord e una parte da Bari. Ok, non mi dia, c'è Vito Vizzi, l'avvocato Pino, l'avvocato. E c'è Antonio che vengono da Bari, sì. E sono partiti stamattina alle 8 e sono arrivati qui adesso. Noi siamo partiti invece intorno alle 12 dal nord e ci siamo ritrovati qui a 19 chilometri da... Sì, vabbè. Allora, qua c'è festa, ascoltano anche la. Lo so, è già festa, figuriamo. Sì, già festa, siamo già carichi per la partita. E qual è la vostra? Posso approfittare di questo intervento per. Aspetta, visto calmo. Che ci ascoltano un po' su tutto il territorio nazionale, per invitare tutti i baresi all'ascolto a firmare la petizione che siamo. Delle firme che stiamo raccogliendo per dare un segnale forte, perché noi non vogliamo che il Bari fallisca, vogliamo un cambio societario, comunque un nuovo progetto per la nostra squadra. Ecco, noi non vogliamo vivere nella mediocrità sportiva, vogliamo raggiungere dei risultati. La città di Bari merita dei risultati migliori e 12.000 tifosi hanno già posto la loro firma per invitare tutte le istituzioni a risolvere questo problema e dare un nuovo progetto. Quindi ecco, invito tutti a raccogliere le firme. Cioè, okay, Nino... ci sono la petizione. Ecco. La petizione è stata lanciata. Oggi poi noi non lo fermi più, eh. Esporremo Nino, anche Nino, anche scusa se ti disturbo. Una fissione che è di sostegno alla sì, piccola okay, Sofia. Sì, io lo abbatterei questo. Nino, sta attento. Volevo dirti una cosa, Nino. Mi senti? Sì, no, è che ti sei giocato tutto il tuo minuto con questa cosa qua. Bene, no, perché io volevo risponderti, alla tua domanda. Possiamo fare un appello? No, però vabbè, è andata bene lo stesso. No, ma va bene lo stesso, non ti preoccupare. Ormai no, comunque, il messaggio è: noi siamo vicini alla piccola Sofia e vicini a tutti. Sì, ma volevamo parlare di calcio, no? Dello stesso male. Sì. Speriamo che le istituzioni capiscano, aprano gli occhi okay, e aiutino queste persone. Va bene. Ci vogliono leggi intelligenti e non leggi stupide. È quello che tentiamo di fare, voglio dire, in questo caso. Grazie, è stato bello. Ciao, ci sentiamo. Grazie, eh. Un abbraccio. Ciao, a tutti. Ciao. Grazie, scusa se ti abbiamo disturbato, voglio dire, non volevo esagerare. Come avete sentito, abbiamo parlato di Empoli Bari, il posticipo di questa sera di Serie B. È bello parlare con loro perché, insomma, c'è. No, salutiamo gli amici baresi. Nini tra l'altro, mi raccomando, ecco, no, andate a firmare perché magari la prossima volta, se raggiungiamo le firme, riusciamo a fare parlare anche della partita. Nel frattempo, traffico che ci riprendiamo un attimo, insomma. Dai e vai, non è solo calcio. I put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. Ci sono momenti in cui bisogna fare delle scelte. E la scelta è sentire il capitano del Siracusa Canoa Polo o ascoltare questa canzone. Noi scegliamo di andare incontro al capitano della Siracusa Canoa Polo, Andrea Romano, che è stato orora premiato. Giusto? Andrea, sì. Ci sei? Buonasera a tutti. Come stai? Benissimo, adesso senza dubbio. Senti, senti, adesso noi possiamo fare così, possiamo scherzare, voi potete ridere, tra un po' te ne vai anche a festeggiare con tutti. Però vediamo un attimo di che cosa è accaduto oggi. Stiamo parlando di Coppa Italia, Siracusa, e stiamo parlando di canoa polo. Cioè, hai capito che in realtà noi dovremmo prima spiegare cos'è il canoa polo e poi arrivare alla Coppa Italia, hai capito? Immagino, non è molto diffuso come sport, però devo dire che sta prendendo sempre più in tutta Italia, questo fa piacere anche nelle altre nazioni comunque. Vabbè, allora, oggi avete fatto l'ultima partita, no? Voi contro... La finale oggi pomeriggio. Sì. Contro il Posillipo. E avete vinto... Abbiamo vinto per 3-2. A 3-2 avete 3-2. Detto. Ah, sì. Proprio, vabbè. Diciamo, c'è stata sempre una sorta di rivalità tra noi ragazzi di Napoli. Perché avete vinto voi e non ha vinto Posillipo? Stavolta ci hanno premiato le gol, scelte... Cioè... No, aspetta, sì, che c'ha le scelte. Le scelte. Le scelte difensive del mister ci hanno portato ad avere più concentrazione. Siamo riusciti ad agguantare la partita dove volevamo noi. Senti, Andrea, credo che non tutti i nostri ascoltatori sappiano cos'è la canoa polo. Forse è il caso di spiegarla. Quindi, chi meglio di te può spiegare cos'è la canoa polo? Allora, siamo in canoa e fino a qua ci siamo. Allora, utilizziamo delle canoe diverse da quelle della velocità. Sono lunghe 3 metri e sono molto manovrabili. La palla viene utilizzata sia con le mani che con la pagaia. Si gioca in un campo di 30 metri per 25 più o meno. Ci sono delle porte sospese in aria a circa 2 metri di altezza. Si gioca 5 contro 5 in campo. Più o meno si può dire che sia simile al modo di giocare della palla a nuoto. Esatto. Lo scopo è mettere la palla dentro queste porte sospese, che sono grandi come il tabellone della pallacanestro più o meno. Come il tabellone, sì, giusto? Esattamente, come il tabellone esterno più o meno. Esatto. E quindi... Un minuto di tempo di possesso per squadra, a meno che non si resetti invece dei 24 secondi del basket. Quindi è molto rapido, perché in un minuto tu devi arrivare vicino alla porta pagaiando e riuscire a tirare in porta, giusto? Sì. Molto rapido, fallo dire a lui, tanto per cominciare, perché cioè, voglio dire, pagaiare per un minuto non senza sforzi, però molto rapido, insomma, questa cosa. Ma scusate, ma qui il problema è, intanto c'è la Coppa Italia, ma c'è anche un campionato, c'è una Coppa Europa, cosa c'è? C'è, perché stiamo parlando per la prima volta, penso, di questo sport. Intanto, vincendo la Coppa Italia, siamo qualificati automaticamente per la Champions League. E quindi già vi portate avanti col lavoro, no? Con traguardo, diciamo che l'abbiamo messo da parte. Sì. Ecco, ma quante squadre ci sono in Italia? In Italia ce ne sono parecchie. Al momento in Serie A, la Serie A è formata da 14 squadre, di cui le prime 6 andranno ai playoff. Ma c'è per caso Livrea, così tanto per dire, un luogo dove c'è tanta canoa? No, lo sapevo. Devo dire che manca. Vabbè, cioè, no, perché lì fanno Cavari, l'Arenzano, il Lerici, ecco, il San Miniato, l'Idroscalo di Milano. Queste sono alcune squadre del nord. Sì. Poi c'è Catania, Posillipo, Siracusa, Posillipo, Palermo. Diciamo che le principali città, la Roma. Vabbè. Ecco, senti, tu hai detto che adesso andate in Champions League. In Champions League, quali sono le nazioni più forti e l'Italia come è messo a livello europeo? Allora, noi italiani siamo stati campioni d'Europa nel 2009. Sì. E al momento quest'anno ci prestiamo ad andare a Cali in Colombia per i World Games. Sì. Sono una sorta di evento simile alle Olimpiadi, diciamo, per gli sport non olimpionici. Ci siamo qualificati, si qualificavano soltanto 5 squadre. E noi siamo entrati. No, ma a livello di Champions come ce la caviamo? Cioè, noi adesso noi del Siracusa che andiamo noi del Siracusa che andiamo in Champions. Sei andato sotto il ponte. È la prima volta che andiamo in Champions League, sì, perché di solito si qualificavano le prime due del campionato italiano. Ecco, quindi. E quindi però vedremo un po', ma sicuramente venderemo cara la pelle. Esatto. Senti, quanti siete di a canoare quando vi scendete scendete in acqua? Cioè, in acqua possono scendere 8 persone. 8. Però si gioca in? In 5. In 5. 5 contro 5. Serve, cambi illimitati. Adesso dobbiamo lasciarti andare, perché sicuramente vai a festeggiare. Siracusa, Siracusa, Siracusa, Siracusa. Grandi. Grazie. È stato bello, grazie. A risentirci. If I'm the BG. sminuite, cari ascoltatori. Adesso qua per l'Italia, che parlando di cose serie. Noi del Siracusa siamo entusiasti stasera che abbiamo vinto la Coppa Italia. Vabbè, squadra ostica al Posillipo, ma sapevamo che ce l'avremmo fatta. Sì, noi. E infatti. Vabbè, però tornando ai nostri ascoltatori che continuano a mandarci segnali, devo dire anche interessanti per quanto riguarda le coppie della vostra vita, la coppia della vostra vita, che non è voi con chi vi siete accoppiati, no, oppure certo. Neanche gli scambi di coppia che normalmente fate, queste cose qua non ci interessano. Quello che ci interessa è le coppie di calcio, le coppie che in qualche modo vi hanno accompagnato nella vostra vita. Qui si stanno parlando di Gullit e Van Basten, come negare tutto esatto. Ciò? Gullit e Van Basten. Come negare questa coppia? La coppia, cioè, sì, Van Basten Gullit, che è arrivata anche sulla pagina Facebook, ce l'ha segnalato Roberta, però ce lo segnala anche da Bologna l'SMS. Da 34... Bologna, saluti ce la saluti, il famoso saluti da Bologna, al 349-238-6666, ma che strano nome che gli è andato in famiglia. Pizza e Matteus, Pizzula e Matteus, no, il termine gladiatorio è stato detto da Pizzula a Matteus, e questo è l'altro dato che ci continuano a dare, a mandare, vediamo. Poi signor... c'è Del Piero e Trezeguet, poi questo. Come negarlo? Esatto, Cristiano, ce lo segnala Robert, poi Totti Battistuta, Vito, stiamo parlando della Roma, e Callon Ventola, se non Vendola. Beh, c'è una coppia indimenticabile, Ronaldo e Ronaldinha, che vabbè, però vabbè, questo... quella è un'altra cosa. Vabbè, butta via, scusa adesso, bella presenza, insomma, da questo punto di vista, poi comunque Ronaldo, però Ronaldo non ha mai fatto coppia con nessuno in realtà. No, non è vero. Sì, adesso, tu, ecco, non è vero, però mi guardi senza, cercando di ricordarti qual era l'altro della coppia in questa cosa qua. Cioè Facchetti, sì, facevano più che altro formazione, perché Burni, Albertosi, Burni, Facchetti, Bedini e via così, no? In questo passaggio. Vieri, Ronaldo, anche se hanno giocato insieme per poche partite, resta la mia preferita. Questo è Matteo su Facebook. Sì. Tanto per dirti che anch'io ho fatto coppia. Ha fatto partita perché poi l'hanno perso quando lo stavano inseguendo Vieri, certo, poi dopo l'hanno perso, certo. Non sono riuscito più a pedinarlo fino in fondo. Totti e Montella ci dicono. Aguilera e Scuravi, per esempio, un'altra cosa. Scuravi. No, non li conosco, mai sentito. Dai, non hanno giocato nel campionato italiano. Cialtrone. Totti e Montella è un'altra coppia che ci interessa abbastanza. 88-89 Bivicinello. Scusa? Del Cremonese. No. Cremonese. No, no, però magari hanno fatto delle cose incredibili. Cioè... ragazzi, Bivicinello. Stiamo calmi perché magari poi Bivicinello ci hanno fatto. Baiano e Battistuta. Ciccio Baiano, è Ciccio vero. Baiano. Ciccio Baiano. Ciccio Baiano. Ma insomma, adesso non vorrei dire, cioè adesso Ciccio Baiano ci ha dato ci ha ricordato il nostro Fabio Cantadori, il tecnico che abbiamo avuto nella prima parte del nostro pomeriggio, ci ricordava anche Igor Protti nel Livorno. Veramente l'ho ricordato io a lui, però vorrei darti questa notizia. Siamo usciti il corridoio e tu mi hai detto giusto Igor Protti, cioè, pensavo ce l'avesse ricordato. No, io ho guardato lui e mi è venuto in mente Igor Protti, ma non è questo il meccanismo di questa cosa qua, no? Però come no, però Igor Protti non è Igor e Protti, cioè Igor Protti è uno solo, esatto. Noi stavamo parlando di coppie. Con chi giocava Igor Protti a questo punto? Guardate, noi stasera alle 22 con pioggia, neve, grandine o qualsiasi altra cosa, con persino con la Serie B, tra l'altro ci ricollegheremo tra l'altro con i nostri con i nostri tifosi del Bari per un nuovo entusiasmante collegamento, per riparlare ancora e di lanciare un altro appello. Tra l'altro noi vogliamo soltanto da loro degli appelli e questo ci riempie abbastanza di gioia. Noi nel frattempo però dobbiamo anche ringraziare ovviamente i nostri tecnici, che Fabio Cantadori e Valeria Bernardi, che ci hanno accompagnato anche quest'oggi al mixer, ovviamente Giorgio De Luca è l'assistente del programma, Luca Cancellara che ci sta un po' ossessionando, però ci interessa moltissimo, caro Luca, ovviamente il nostro dacci un minuto è la nostra versione, è la versione nuova per quanto riguarda ovviamente la canzone. E ancora una volta, e anche stasera tra l'altro ci sarà ancora una volta proprio lui, Luca Gattuso, e ci sarà Anche io, cioè Sergio Ferentino. Grazie, ovviamente, a risentirci a questa sera. E intanto mandateci ovviamente sul nostro numero 349-238-6666. Mandateci i vostri sms se ancora avete voglia, se siete sotto la pioggia, se siete sotto il vento, se siete lì, insomma.